è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura. Con chi iniziamo oggi, Parenzo? Beh, iniziamo con questi lavoratori dell'Alcoa che oggi davanti al Ministero hanno protestato. Sicuramente con questo, un messaggio va loro, due operai feriti, certo, sì. Al netto di slogan che vanno condannati, la Fornero al cimitero e quant'altro, c'è la rabbia dei lavoratori, ecco, che hanno la paura di sì, non avere più un futuro. Ma dove sei? E la politica impotente. Dove sei? A Radio Popolare, dove sei? No, non è Radio Popolare, è Radio della Confindustria, ed è giusto che la Radio della Confindustria si parli di problemi delle imprese. Ma perché mi devi rompere le palle ogni giorno con questa storia? Tra l'altro hanno pure aggredito... Hanno pure aggredito una persona oggi, il povero Fassina. Lo so. E allora basta, tutto. Basta con questa retorica. Dico che comprendo la rabbia di questi ma operai. Ma che comprendi? Ma stai che zitto. Che non portano a casa una lira, sì, e che sono giustamente incazzati neri, sì, con 15 anni di politiche, sì, industriali. Ma di che stai parlando? Ma di che stai? Ma che ma che comizio stai? Ma che stai facendo? Un comizio? Ma che fai? No, è una. Ma è sembri. Un, è come dire, ma sembri coso, sembri uno della Fiom, ma di che parli? Ma che Fiom? Sto 500 stai zitto, la migliore, ma Roma, chi se ne frega, oggi, la migliore l'ho sentita, la migliore, stai zitto, la migliore l'ho sentita oggi, credo da Lia Celi, anche Berlusconi in piazza con gli operai, questo gli operai buono, sardi, cioè scende in piazza, no? Dichiara sugli operai sardi, sono con voi, l'Alcova non deve chiudere. Renzi, preferisco Veltroni come romanziere, una delle frasi del giorno. Sentite, grandi polemiche all'interno del Partito Democratico con i veltroniani in subbuglio. Senti. Veltroni lo preferisce come politico o come romanziere? Direi che i successi maggiori li ha avuti più come romanziere e come sindaco di Roma. Sì. Gli auguro tanti romanzi belli per il futuro. Certo, anche perché lei, se dovesse mai diventare premier, lo manda a casa. Senta, lei... come tutti quelli che hanno fatto più di 15 anni in Parlamento, cioè non è un fatto personale. Questa mattina da Chiambretti ha aggiunto anche come sindaco di Roma, cosa che le agenzie non riportano, concentrandosi naturalmente nella comunicazione di oggi sulla questione della rottamazione anche di Veltroni e sul successo da romanziere, è un Renzi scatenato, presente in tutti i media praticamente, domani mattina sarà Radio 24, domani anche a Ballarò, un Renzi che ne dice di cotte e di crude anche no. Se, che vuoi, che vuoi? No, che dico vuoi, che vuoi? Di Matteo, ma giusto, è scatenato e le primarie devono essere sangue, devono avere un po' di polemica, devono far fuori tutto. Certo, sì, cerca di collegarti da un posto più degno. Casaleggio è Boncompagni, e Grillo è Ambra, sentiamo. Ma Grillo è per definizione un uomo, come posso dire, vedendo quello che dicono i suoi consiglieri regionali, come è accaduto con lo scoop di Formigli sulla 7 l'altro giorno, che sostanzialmente dicono che Casaleggio va e disfa, è una sorta di, non lo so, Casaleggio e Boncompagni e lui è Ambra, una cosa del genere. Questa non è male, bisogna dire. Questa che non è buona. Male. C'è anche Buttiglione, il signor Buttiglione con Italia, con l'UDC, con i grandi movimenti al centro di cui non ho capito nulla. Ho cercato oggi di farmi uno schema, caro Parenzo, uno schema, sì, su quello che succede al centro, di sì, quello che, ecco, succede al centro. Perché so che anche Montezemolo si è arrabbiato adesso. Sì, si è arrabbiato Montezemolo, se l'è presa con Casini dicendo che ci sono vecchi politici, con messaggio confuso. Allora, la situazione è questa: Casini vuole stare col Partito Democratico ma non con Vendola. Poi, ecco, non vuole neppure stare tanto col Partito Democratico, ma fare la federazione di centro, che poi forse forse farà un accordo col PD, con o senza Vendola, Bocchi, non si sa. Sì. La federazione di centro da chi sarebbe composta? Dall'UDC, forse la lista Montezemolo, forse la lista Giannino, forse la Cosa Bianca, forse non so chi altro. Cos'è la Cosa Bianca? Ma che ne so, un futuro partito con tutti quelli, tutti i cattolici, Todi, hai capito qualcosa di tutto questo, no? Ma assolutamente nulla. Poi c'è anche la Marcegaglia, lo sai, no? Come no? Marcegaglia è incoronata dall'UDC, sarò con voi, ma non mi candiderò. Ecco, ma la Marcegaglia può essere insieme a Montezemolo? Guarda, no, non sta con Casini la Marcegaglia. Ma non ho capito nulla, ne parlano le bar. La Marcegaglia sta con Casini, infatti siccome Montezemolo si è incazzato perché pensava che la Marcegaglia andasse con lui. Però ma no, ma che dici? Non hai capito nulla, non hai capito niente. No, ti spiego, siccome Montezemolo non decide, cioè non decide, sì, non deciso nulla, dice ho la mia fondazione, Italia Futura, ho le mie cose, mi cambio, candido, faccio intanto un senti Buttiglione, intanto senti Buttiglione perché è chiaro che c'è una grande confusione. Buttiglione, ecco, che parla quest'anno anche delle belle ragazze che ti versano l'acqua, questo a Chianciano. Avete notato la perfetta organizzazione di quest'anno? È molto più bello salire qua sopra accompagnati da una bella ragazza che ti versa pure l'acqua. La grande novità di Chianciano, la grandissima novità di Chianciano, i matrimoni gay. Buttiglione non si risparmia anche su questo? Beh, vabbè, perfetto. Non siamo un partito di bigotti, non siamo un partito di omofobi. Le preferenze sessuali di ciascuno cadono nella sfera del privato. Difendiamo il matrimonio e la famiglia. Il problema non è di dire che i gay non si possono sposare, il problema è un altro. Il problema è che stanno svuotando il matrimonio. Che ne direste voi di uno che dice per non discriminare quelli alti meno di 1,50 m abbassiamo l'altezza dei canestri nel gioco della pallacanestro? Non è più pallacanestro. Cioè lui paragona i gay a quelli più bassi. Infatti si chiama mini basket. Esiste. Una cosa pazzesca, signor Buttiglione. No, ma poi io non capisco, dice noi non siamo, cos'è che ha detto, non reazionari, non siamo bigotti. Invece no, lui dovrebbe dire, come fanno in America i conservatori, no, noi siamo bigotti. Dovrebbe dire, noi dovrebbe rivendicare il fatto che è un bigotto. Perché sono tanti bigotti, invece noi siamo bigotti. E non come il matrimonio gay, però lo dica, dice noi siamo bigotti. Il diritto a essere bigotti esiste in questo paese, no? Rivendichi quel diritto. Casini ha solo un mantra, non si capisce poi in cosa consista questa cosa, però dopo Monti c'è Monti. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto il mio orizzonte finisce nel 2013, mi permetto di contraddirlo, per noi dopo Monti c'è Monti, il cammino non va interrotto. Ora io dico solo una cosa semiseria, ma se uno vuole proporre una persona come Presidente del Consiglio lo candida e però deve prendere i voti. I voti, che prenda i voti della gente, non è che viene incoronato dopo tipo salvatore della patria. Bravo. A un certo punto questa cosa finisce, uno deve prendere i voti della gente. Bravo. i voti non manovre di palazzo, bravo, cioè non bravo. Cose dopo eccetera, i voti, i famosi voti, che non è che non possono contare nulla ormai, no, i famosi voti, le urnette ecco. Allora candidino Monti, se vogliono Monti, capolista, Presidente del Consiglio, e fategli prendere i voti, non i pasticci dopo. Bravo. Tremonti, voglio giovani non generali dell'armata morta. Tremonti, voglio giovani. Sentiamo. Non credo alle formule antropomorfe, cioè l'uomo che fa. Vedrei comunque, se le idee sono giuste, quasi tutti i giovani. I giovani devono avere posto nelle liste, non credo, ha detto i generali dell'armata morta. I giovani, tutti dicono che vogliono i giovani. Va bene, 800 24 00 24, abbiamo con noi uno che per tanti anni ha lavorato a fianco dell'uomo di questi giorni, di cui si parla molto, cioè Matteo Renzi. Lui si chiama Lapo Pistelli, è responsabile esteri del Partito Democratico, fiorentino pure lui, buonasera. Buonasera a voi. Pistelli, anche lei è tifoso della Fiorentina come Renzi? Come? Anche lei è tifoso della Fiorentina come Renzi? Ma io no? Molto moderatamente, poi soprattutto non mescolo il calcio e lo sport, quindi non faccio diciamo campagna elettorale con i golfini viola, diciamo questo è uno stile molto moderno che appartiene a Matteo. Ma lo fa lui, lo fa apposta in realtà, no? Cavalca il suo popolo e lo fa godere. Ma è bravo a fare questo, sì. Da quanto si vede è insuperabile. Ma lei dice, perché uno non può fare campagna elettorale col calcio? Una cosa berlusconiana, ha funzionato alla grande, no, fino adesso? Appunto per questo. Cioè, diciamo così, la rottamazione non la si fa semplicemente sul numero dei mandati, per certi effetti, ma su due modi di vedere la politica. Baricco ha fatto nei suoi meravigliosi libri, ne ha fatto uno intitolato I Barbari, saggio sulla mutazione, dove descrive la differenza tra i verticali e gli orizzontali, quelli che approfondiscono e quelli che surfano. Matteo è una perfetta applicazione nella sfera politica dei barbari di Baricco, cioè della mutazione avvenuta. Persona capace di trarre energia da tutte le cose che tocca, approfondendole il giusto, andando più veloce della sua ombra, non facendosi mai prendere in castagna e cambiando argomento, non dando il tempo all'interlocutore di rimproverargli le cose che non ha fatto. Cioè un superficiale, dice lei, un superficiale. No, Baricco non dice un superficiale, perché racconta che così sono nate anche le grandi rotture storiche, dal romanticismo al romanzo moderno, eccetera. Rottura con l'ordine precedente. Lei lo dice però con un pizzico di... No, lo dice con una critica feroce, sarcastica e con una forza dirompente, è chiaro, dai. Però a lei gli è rimasta là quella cosa del 2009, quella sconfitta alle primarie, signor Pistelli. Le sconfitte fanno sempre male, altrimenti si sarebbe dei masochisti. Dopodiché ci bisogna avere la capacità di girare pagina, girare storia, bisogna un'altra. Ma se mi interpella come esperto della materia, credo di conoscere Matteo molto bene, nelle cose che talvolta oggi stupiscono chi non lo conosce, io rivedo alcuni stilemi, alcuni atteggiamenti che già aveva il ragazzo. Senta, ma quanta fuffa c'è in quello che dice quanta fuffa c'è in quello che dice signor Renzi? Quanta fuffa? Posso rispondere, diciamo, in modo cattivo con voi? Sì. La stessa fuffa che c'è oggi nel sistema mediatico, l'80%. Quasi tutta fuffa, dice lei. Però è una quantità di panna che ciascuno rimpasta con gioia, e io lo dico facendo cappello a Matteo e alla sfida che sta facendo. Sono tutti convinti di utilizzarlo, dal Corriere Repubblica, da Oggi Avvisto, dal Tempo, e secondo me è lui che vi usa tutti. Cioè, in che senso? Usa tutti per che cosa? Ciascuno utilizza questa grande campagna molto grintosa e rampante, perché ovviamente fa mercato, fa scaletta, fa audience, c'è chi lo utilizza per rottamare il PD, chi per rottamare il nemico, chi per far saltare il sistema però italiano. Però sotto non c'è niente. No, ciascuno pensa che sia funzionale la propria strategia. E invece Matteo sta, secondo me, molto bene utilizzando tutti per la sua strategia. E qual è? La sua strategia è quella di riuscire a persuadere, come altri prima di lui, contemporaneamente elettorati diversi, raccontando a ciascuno la canzone che fa presa su quell'elettorato. Tutto solo per ambizione personale, per sfrenata ambizione personale. Guardi, io glielo dico con molta franchezza, la politica è potere, perché sennò si farebbe accademia. E allora? Vuol dire volere andare in un posto per cambiare delle cose secondo un proprio disegno. Lui ha giocato, come ha sempre fatto negli ultimi anni, le sue fiche sul tavolo senza grandi timori. Allora, Lapo Pistelli del Partito Democratico, 15 anni con Matteo Renzi, addirittura Renzi ha iniziato come assistente parlamentare, cioè non ha iniziato, ma insomma è stato assistente parlamentare di Pistelli, per poi batterlo alle primarie, una cosa pazzesca. 10 anni dopo, però nel frattempo l'ha fatto il segretario del Partito Popolare, quello della Margherita, poi è diventato presidente della provincia e poi le primarie. Senta, ma il difetto maggiore di Renzi qual è? Ma forse è quello che oggi viene considerato anche uno dei suoi pregi, cioè l'arroganza, la capacità di non porsi limiti. Allora non è un vero e proprio difetto, diciamo, no? Dipende da quella prospettiva di chi lo osserva, per chi magari è convinto che la politica sia servizio, umiltà, eccetera, eccetera, è visto come un grande difetto. Perché è convinto che questa è una società che invece premia, diciamo così, i vincenti e quelli che scalano veloci, è un grande pregio. Ma è perfetto, secondo lei sarebbe un perfetto candidato per il centrodestra, se il centrodestra non avesse Berlusconi ancora? No? Io dico che non mi stupisco che piaccia perché, vede, io appartengo a una di quelle scuole che quando incontra un elettore di centrodestra, che magari è pentito, o prima da fargli la predica per dire pentiti di quello che hai fatto e riconoscerlo in pubblico. Matteo lo accarezza bene, non gli cita mai i fallimenti di Berlusconi e se lo porta al laccio dietro. Però c'ha ragione lui. Da questo punto di vista è molto moderno. C'ha ragione lui, perché non lo colpevolizza, non lo martirizza. Sto dicendo, nella vecchia scuola si sarebbe detto intanto prendo i miei e poi se si pentono si mettono in fila. Invece lui questa operazione non la fa e quindi non è un caso che la Sant'Anchello voglia baciare o che Tosi ne provi un'attrazione. È una capacità trasversale che oggi lo premia. Ma non è quello che serve alla sinistra, in teoria? Cioè, quello di attrarre altri elettori, di allargare il proprio campo, o no? Assolutamente, però diciamo così, quando si dice oggi che la capacità è quella di sapere parlare a più elettorati, in questo Matteo è molto bravo. la possibilità, diciamo la vera difficoltà però del leader moderno è di mettere questi elettorati in coerenza. Intendo dire, abbiamo anche già visto un tentativo, che non gli voglio appiccicare come un'etichetta, se si va di bene, sì, di quello che era presidente operaio, presidente artigiano, cioè che era a seconda della platea che aveva davanti. Ah, ho capito. Ci vuole, ho abilità capito, nel messaggio, ma bisogna anche riuscire a raccontare la stessa storia a tutti, in modo tale da conquistare i militanti delle cucine, ma anche il berlusconiano deluso. Se le storie diventano diverse, allora c'è una grande abilità, ma l'abilità non necessariamente capacità. Parenzo? No, dico all'onorevole Pistelli, che saluto e abbraccio calorosamente. Dai, perché devi abbracciare e salutare? Perché lo conosco dai tempi di Eisberg. Devi sempre abbracciare tutti, una cosa pazzesca. Beh, purtroppo sì, faccio questo, ormai sono una vecchia carapace di mestiere da 12 anni. No, chiedo all'onorevole Pistelli, con sincerità, lo abbiamo definito un po' un pifferaio magico, ma è il più grande erede della politica Berlusconi, diciamo così, dei metodi Berlusconi, è il più grande erede. Hai imparato la lezione? Ha imparato, allora posso dire, la rispondi in un altro modo, vi dico questo: quando Berlusconi, che secondo me ha avvelenato i pozzi per 20 anni di questo paese, però è stato sul piano dei formati politici un grande innovatore, cioè tutti l'hanno preso in giro quando aveva lo sfondo con le nuvolette azzurre, nulla, dice. Ma no, è stato un grande innovatore, nel senso che aveva inventato lo sfondo con le nuvolette azzurre, glielo criticavano, tutti erano invidiosi. Ha inventato i jingle all'interno dei suoi congressi di partito, ma tutti erano invidiosi e cercavano il proprio jingle. Allora, ma se vince Renzi, lei che fa? Allora, io credo che lui abbia imparato la lezione più uno, cioè ha imparato delle cose che nel centro-sinistra tradizionale si fa più fatica a imparare. Senta, se dovesse vincere Renzi, lei che fa? Resta nel PD, sì? No, io resto nel PD per forza, perché il PD, come dire, è il mio partito. No, perché poi a Firenze c'è un fuggi-fuggi, ho visto, qualcuno vuole andare via, eccetera. Ma guardi, Firenze è una città, come dire, io sono fiorentino come lui, siamo Guelfi e Ghibrin. Perché lei dice che sfrutta la Fiorentina? Cioè, perché sfrutta la Fiorentina, Renzi? Perché la Fiorentina, Firenze è una grande fede, non la sottovaluto. Se lei fa il calcolo fra il numero degli abbonati e il numero degli abitanti, si rende conto che c'è un livello di affezione verso la squadra che non c'hanno i torinesi con la Juve. Perché lei dice è un po' tifoso per finta, allora, no? No, è un tifoso per davvero e ha capito che, come dire, nella politica moderna, sia chiaro, nella politica moderna, quella che voi avete raccontato prima e che faceva venire i conati anche a me, è tutta con chi mi alleo, che simboli faccio. Sì. La politica moderna all'americana è fatta o su programmi molto concreti o su emozioni prepolitiche. E allora ci si identifica in una storia. In queste emozioni prepolitiche, dei sentimenti, lo sport e il calcio, accidenti. Cioè lui va con la maglietta apposta allo stadio, dice lei, no? Ma perché sa benissimo. Fa il sindaco che si mette in cima della città tifosa. Dunque fa però bene. Quello che le voglio dire, ci può essere un tanto di sincerità, un tanto di furbizia, ma questo lascio a voi giudicare. Quello che voglio dire è che lo dica lei, se c'è più attenta alle geometrie, lui ha riportato questa attenzione alle emozioni. Ma lei da quanto tempo è che non ci parla? Da quanto tempo è che non ci parla? Da tre giorni, perché ci siamo incontrati in America. Lo so, la convention lì, ma lei non ci parla quotidianamente, ormai non ci parla più. Abbiamo due storie diverse, facciamo due mestieri diversi. Non lo voterà mai alle primarie? Io gli ho detto che non lo voterò, ma senza astio, come dice lui, col sorriso sulle labbra. Ma è più furbo che intelligente, quindi, da come lo dice lei, più furbo che intelligente. No, guardi, quando la furbizia, se fosse anche furbizia, quando si arriva a competere per la premiership, c'è qualcosa di più, non ci sbagliamo. C'è anche intelligenza, non c'è solo furbizia. Molta capacità e c'è soprattutto una capacità, come dire, di utilizzare un mal di pancia che c'è nel paese, che è formidabile. È un genio del male. Ecco, dica così. Io credo che lui sorriderebbe davanti a questa definizione, però riesce a farlo molto bene. Dunque lei lo si potrebbe è definire un genio anche del male, un Joker. Joker è divertente come definizione. No, non è mica necessariamente negativa. Un Joker, un genio. Bersani è Batman, lui è Joker e lei è Catwoman. No. Bersani lo ha definito molto bene lui e si è definito molto bene Bersani stesso. L'ha usato sicuro. Ma lei, scusi, lei tra, mi dica la verità, tra la Bindi e Renzi però non avrebbe dubbi, mi dica. Vabbè, certo. No, guarda, il gioco della torre con questi amici qui non li faccio. Tra la Bindi e Renzi, su, è scontato. Non me lo fate fare. Pistelli, tra la Bindi e Renzi, se lei dicesse la Bindi mi stupirebbe, su. Sorrido, no comment. Ma che no comment? Ma com'era come portaborse? Bravo oppure no? Era molto veloce, la caratteristica che io gli descrivo ancora oggi, è molto veloce. E diciamo così, la velocità riesce a fargli superare le incoerenze. Ma lavorava oppure no, era così? Veloce. No, molto veloce vuol dire che lavorava molto, con molte idee. Quello che mi fa, che io glielo dico, ma lui sorride quando glielo dico, è che alcune delle cose su cui oggi insiste e stupisce, i 100 giorni, le 100 idee, sono cose che facevamo 15 anni fa, applicate su una cosa più piccola che era Firenze. Allargando la platea, quello strumento di comunicazione è funzionato molto bene e quindi lo replica all'infinito. Da questo punto di vista, ripeto, molto veloce, molto rapido anche a cogliere ciò che di nuovo la scena culturale, politica, mediatica offre. Prende tutto da tutti. Prende. Quando io vi dico, dunque, il consiglio bibliografico di Baricco e dei Barbari, dico questo: prendere energia da ogni occasione. Stai 5 minuti in un luogo, non è il tuo luogo, cerca di imparare la lezione. Se di quel perde, luogo. Che fa? Se perde continuerà a fare il sindaco, penso, no? Questo dice lui, però... No, ma normale, certo. Io devo dire, queste sono delle cose che mi ha molto colpito. Cioè, ma dovrebbe rimanere a fare il sindaco? Lo faccio e lo rifaccio. E adesso, voglio dire, a Firenze nessuno gli dice ma no, hai tradito la parola d'arte. Non gliene frega niente. Veloce a proporgli un obiettivo diverso. Fiorentini, però piace molto che Firenze sia in prima fila. Cioè... Assolutamente, assolutamente. L'idea di avere un sindaco che sta sui media nazionali li inorgoglisce. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Gli operai dell'Alcoa a Roma per il vertice sul futuro dell'azienda. Tafferugli sotto il ministero, due feriti, alcuni contusi. La Svizzera Clash interessata all'acquisto. Dalle torri industriali alle gallerie delle miniere, le proteste estreme dei lavoratori sardi in una terra che sta diventando deserto industriale. Tra aprile e giugno PIL giù del 2,6%, mai così male da 3 anni, mali consumi, grilli, una nuova manovra non è necessaria. Renzi attacca Veltroni, meglio scriva romanzi, ma uno dei suoi collaboratori, Chino, prende le distanze, basta invettive, dovrebbe ringraziarlo per le primarie. Messaggi confusi e niente di nuovo, Italia futura, la fondazione di Montezemolo boccia Casini, la risposta del leader UDC, noi confusi, aspettiamo voi. Chi prima, chi dopo, tornano in classe 8 milioni di studenti, un anno scolastico che si apre con vecchi problemi e nuove proteste. Indagati per omicidio colposo i 3 medici che soccorsero Pier Mario Morosini, il calciatore del Livorno, morto sul campo di Pescara. Beh, punturina, ci vuole una punturina per il signor Reguzzoni. Te lo ricordi Reguzzoni? Era sparito. Era il capogruppo all'epoca del cerchio magico del Carroccio. Sì, ma era nel sarcofago, non si sentiva più da tempo, l'hanno spolverato un attimino e è tornato fuori. Però le posso dire con grande rispetto che ho per lei, direttorissimo, e l'amicizia che ci lega ormai da 4 anni. Sì. Chi è bloccato dal grande raccordo anulare sta tornando a casa. Sì. O chi, ad esempio, a Milano sta facendo la spesa in uno dei tanti supermercati, pronto a... Oppure è fermo sulla tangenziale in questo primo giorno. Ecco, no. Può anche vivere senza le dichiarazioni sulle Reguzzoni, secondo me. Sì, ma... Però, se lei le ritiene fondamentali per lo sviluppo del paese, per lo sviluppo della zanzara, mandiamo Reguzzoni a rotta di collo. Però volevo solo dirle questo. Ma non c'è dubbio. Però, insomma, si può fare a meno di tante cose. Bossi come Gandhi. In particolare di Reguzzoni. Però Bossi come Gandhi non è male. Bossi come Gandhi. Come Gandhi, te lo posso assicurare, ha detto così. Reguzzoni. No, ma è tornato fuori a parlare. Uno poi può sta pure zitto invece di ste cazzate, no? Cioè, si potrebbe anche dire, no? Era meglio rimanere silenti. Con forse. La sua solita sobrietà. Con la mia solita sobrietà, ho detto invece di dire queste stronzate, Bossi è come Gandhi, detto con tutto il rispetto. Per Gandhi, ma anche per lo stesso Reguzzoni, è meglio stare silenti. Andiamo. All'unico uomo che 25 anni che io faccio politica ho visto che non si è mai piegato per interessi personali, quest'uomo è Umberto Bossi, quindi altro non c'è da dire, ci sono poche persone che di fronte agli schiaffi dicono porgi l'altra guancia e sono uomini della statura morale di Gandhi e noi abbiamo la fortuna di poter dire anche di Bossi. Viva la Lega e viva Bustarsizio! Voleva dire un uomo che non si piega mai, secondo Reguzzoni, naturalmente, no? E poi ha fatto l'esempio di Gandhi. Quando c'è l'affetto c'è tutto, cosa vuoi fare? Ma sì, sì, sì. Feltri parla di Tina Anselmi come defunta. Senti. L'ambito pubblico cominciò con l'istituzione delle regioni, continuò drammaticamente con la riforma sanitaria della defunta Anselmi, ministro Anselmi. Beh, poi ha ricordato anche noi della Zanzara che siamo autorizzati a prenderlo per il culo per la vicenda della Minetti. Sentiamo. E lei disse una volta che la potevamo prendere per il culo se la Minetti non si fosse dimessa da consigliere regionale. Così non è stato, quindi siamo autorizzati a prenderla per il culo adesso. Infatti è ciò che accade da circa un paio di mesi a questa parte. Anche la Zanzara non fa altro che sfottermi e naturalmente credo che abbia ragione, perché a me era stato detto da fonte autorevole che si sarebbe dimessa il giorno appresso. Ciò non è avvenuto, ma rientra negli schemi del centrodestra, perché quando Berlusconi fa un'affermazione di solito il giorno dopo la smentisce. Emilio Fede, i bookmakers sono impegnati sul mio movimento. Ha detto proprio così, bookmakers. Fede. Qualcuno si chiede, confluirà nel progetto di Berlusconi? Cioè, qual è la direzione? La domanda a me, guarda, no? Allora, i bookmaker inglesi sono già impegnati nel dire vince, perde o ci rinuncia. Danno anche una sorta di percentuale, la da Piepoli, se va da solo, tot, se va apparentato, tot. È chiaro che io mi apparento con chi? Mi apparento naturalmente con l'area moderata, questo non ci sono dubbi, no? E poi la frase del giorno, quella di Renzi a Radio 2, risentiamola da Chiambretti su Veltroni, grandi successi ma come romanziere, in realtà ha aggiunto anche sindaco di Roma. Veltroni lo preferisce come politico o come romanziere? Direi che i successi maggiori li ha avuti più come romanziere e come sindaco di Roma. Sì. Gli auguro tanti romanzi belli per il futuro. Certo, anche perché lei se dovesse mai diventare premier lo manda a casa. Senta, lei... come tutti quelli che hanno fatto più di 15 anni in Parlamento, cioè non è un fatto personale. Tanti romanzi belli per il futuro, dice, però poi adesso non bisogna essere troppo cattivi. Ha detto anche, ha avuto successo come sindaco di Roma, ci sono i veltroniani o i cosiddetti veltroniani incazzatissimi. E anche Ichino stesso, che mi sembra una persona molto moderata, no? Sì, sì, certo. Ha detto, insomma, Renzi, dati una calmatina perché le primarie ci sono grazie a Veltroni. Bene, 800 24 00 24, Montezemolo o almeno Italia Futura o chi scrive su Italia Futura, anche qui non è chiaro perché quando uno deve dire qualcosa fa scrivere un documento sul sito di Italia Futura, lo dica chiaramente, mi fa impazzire questa cosa. Anche questo è vero. Cioè perché uno dice Montezemolo due punti, invece di far scrivere a uno anonimo sul sito di Italia Futura, la fondazione di Montezemolo, scriva lui direttamente, non qualcuno nella fondazione, tipo Grillo, perché... tipo Grillo questo qua, che non scrivo, qualche volta non scrive lui direttamente, no, ma scrive qualcun altro. Non attacchiamo così tanto Italia Futura. Sono, ma io non sto, attaccando nessuno. E poi, editori, ma che me ne frega a me? Non me ne frega nulla. Io dico quello ma che no, penso. Un po' di più bravo Montezemolo, avanti. Ma così. Quale bravo Montezemolo? Non me ne importa nulla. Facciamolo in modo più soft, no? Un po' più vicino. Cioè, però potrebbe, caro Montezemolo, lei è bravissimo. No, guarda, senti, il punto fondamentale è che può avere anche ragione, ragione sulla questione di. Sì. Della classe dirigente dell'UDC, perché scrive si schiera in prima fila, seppur con grande rispetto per le persone e le storie individuali, una classe dirigente di questo tipo: Paolo Cirino Pomicino, Ciriaco De Mita, Rocco Buttiglione, Giorgio Lamalfa, Giuseppe Pisanu e financo Renata Polverini, che in realtà non è nemmeno una vecchia, diciamo, politicamente, no? Però effettivamente in prima fila lì nell'UDC c'era Paolo Cirino Pomicino, De Mita, Buttiglione, Lamalfa, Pisanu, per non elencare anche gli altri, Che fai? Non è che ti puoi sparare a questi. Ho capito, però non è che la classe dirigente nuova, questi si presentano quel nuovo, c'hanno le palancane, dai, su. No, ho capito, ma non è che gli puoi dire scusate, alzatevi perché stai Ho tecnici. Capito, ma cioè, però... poi evidentemente piuttosto che stare al bar sono andati lì a sedersi, capito? Ah, ecco, forse. E dove questo. Vuoi mandarli? Non è che puoi prenderli per un orecchio e dirgli scusami Cirino, puoi venire un attimo qui a fare un pomicino, un girino? E non è che puoi. Ma tra l'altro Cirino Pomicino manco si candida. Daniele, tu, provincia di Frosinone. Buonasera, Daniele. Sì, buonasera. Dica. Buonasera, dottor Cruciani. sì, visto, per rimanere in tema di paragoni, a me è venuto da paragonare Grillo a Ciceruacchio. E Renzi, secondo me, più che paragonare lui e Casaleggio a Ambra e Boncompagni, dovrebbe stare attento a non a diventare lui il figlio di Ciceruacchio. Non so se voi conoscete la storia, magari Parenzo la conosce perché è stato anche difensore degli ebrei, Ciceruacchio. Quindi mi volevo fare questo paragone, tutto qua. Cioè, perché Grillo sarebbe? Un capopopolo, diciamo. E che c'entra Renzi? Senz'altro è Renzi un grillo in minore, un grillo in piccolo? Certo, sì. Rischia di andare più sul binario di Grillo e magari venire fucilato anche lui. Vabbè, grazie. Luigi da Rimini, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo dire, cioè, sia le trasmissioni televisive che i giornalisti, animo, invece di spazio a... Non si sente nulla, Giuseppe da Napoli. Animo. Animo, pronto. Forza, Giuseppe, dica. Pronto, buonasera. Salve, volevo fare un intervento sulla impresentabilità della classe politica napoletana e campana. Sì. Prendendo spunto da quella esilarante messa in onda del, diciamo, dell'introduzione del presidente della provincia Cesaro, che voi avete trasmesso qualche giorno fa. Sì. E quel tipo di intervento è stato veramente esilarante. Sono un medico e in ospedale siamo stati tutti quanti presi da questa vostra iniziativa e devo dire, su quest'onda vi volevo dare un suggerimento di fare qualche trasmissione proprio su questa problematica, perché realmente siamo... Quale problematica? La problematica della, diciamo, classe politica napoletana e campana che non cambia, certo. Inchiodata e assolutamente... Ho, diciamo, capito, però adesso non prendiamo... questo è un argomento serio che è decennale... Certo. Noi abbiamo preso in giro come tutto il mondo, peraltro, il signor Cesaro, Luigi Cesaro, sì. Detto Gigina Purpetta, presidente della provincia di Napoli, per quella splendida cosa, soprattutto per la trasformazione di World Urban, sì, Forum in World Urban Forum. Wake up Purpetta. L'ascoltatore di Napoli mi ha ricordato la vicenda di Luigi Cesaro, una delle più esilaranti, credo, degli ultimi 15 anni, se non 30 anni addirittura. Si tratta di un ricatto, si tratta certamente dell'azienda Fiat insieme a Melchior, hanno deciso di mettere in campo una nuova strategia. Questa era Fiat Melchior. Poi l'ONU, l'ONU, la World Urban Forum. World Urban Forum. Marco, provincia di Milano, 800240024, la zanzara in una giornata in cui Renzi se la piglia con Veltroni, in cui Montezemolo se la prende con Casini. Matteo da Bologna. Salve. Dica. Salve Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Sì, dunque, io sarò brevissimo, ho sentito spesso Renzi, diciamo, durante le trasmissioni, mi pare, di Santoro, dire, insomma, chi è in qualche modo sottoposto a processi o altro, insomma, situazioni di questo tipo, si metta da parte, eccetera, eccetera. Eppure Renzi, il 6 di agosto dello scorso anno, è stato condannato dalla Corte dei Conti, basta documentarsi un attimo, per aver fatto sostanzialmente assumere i suoi amichetti e aver procurato un danno erariale per quale è stato condannato a risarcire la provincia. Questa è una sentenza. Non lo so, guardi. È una sentenza. Non ho la minima idea di questa roba qua. Renzi, Corte dei Conti, condannato dalla Corte dei Conti. Cruciani, cioè il signor Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti. Basta nell'agosto scorso, scorso. Basta documentarsi. Per l'inquadramento contrattuale di alcuni assunti quando era presidente della provincia. Esatto. Lui dice che è una ricostruzione fantasiosa ed originale. Esatto, quindi voglio dire, lui potrà dire quello che vuole, comunque c'è una sentenza. Non mi pare, ma che vuol dire c'è una sentenza della Corte dei Conti? Cioè, non... A casa mia, se lui va vabbè, in ma qual è il punto, scusi, non ho capito qual è il punto. Allora, che lui dunque non è titolato a parlare di, come dire, di giustizia, di sobrietà, di comportamenti, perché è stato condannato dalla Corte dei Conti di Firenze quando era presidente della provincia per il tipo di inquadramento di alcuni collaboratori. Ma guardi, a casa mia, se uno viene condannato alla Corte dei Conti per aver procurato un danno erariale, per me ha già chiuso, sinceramente, perché non è una sentenza, non è un'accusa lasciata da chiunque, è un giudice che si esprime, una sentenza, quindi voglio dire, è stato... Ci sarà anche un ricorso, magari, no? Certo, ma indubbiamente ha tutto il diritto di fare ricorso. Una multa di 50.000 euro, sì. Però quello che voglio dire è che quando sento dire quando c'è qualcuno che è sotto indagine o altro, si faccia da parte, eccetera, eccetera. Comunque ha fatto appello, Ha fatto appello, vedremo. Ma che faccia pure appello, però voglio dire... E predica verso gli altri di mettersi da parte quando sono sotto un'inchiesta, sotto ha fatto appello, non è una sentenza definitiva della Corte dei Conti, ha fatto appello. Ha fatto appello, però la sentenza è stata emessa, quindi e allora che vuol dire? Quindi se l'hanno emessa, evidentemente quello che hanno diciamo su cui hanno indagato, sì, e cui hanno tirato quelle prove, evidentemente sono arrivati a quel punto, cioè non credo che saranno tutti scientifici, no? Voglio dire, se c'è la sentenza. Sì, ho capito, ma non è che le sentenze sono la Bibbia, eh? Cioè, non è che sono il punto di riferimento per giudicare una persona, in particolare una sentenza di un giudice amministrativo sull'inquadramento di alcuni dipendenti della provincia. Ci sono sentenze e sentenze, non è che vale tutto, Cioè, c'è la sentenza che. Cioè, non è la sentenza per collusione con la mafia, insomma, sia chiaro, no? Cioè, è la sentenza sull'inquadramento di alcuni dipendenti all'interno della provincia. Io non voglio difendere nessuno, non me ne frega niente. Ma infatti non è una questione, è liberissimo di fare appello, magari lo vince anche, dico soltanto che però quando io sento, diciamo, dire dal signor Renzi, che lo sento dire, mi pare da Santoro, vorrei sbagliarmi, dire quando una persona è sotto inchiesta, se sono processi in corso, si metta da parte, vabbè, allora voglio dire... Ma che vuol dire? Ma non... Uno può essere sotto inchiesta perché ha investito un gatto per strada o perché è accusato di concorso esterno in un'associazione mafiosa. È diverso. Sì, vabbè, in questo caso ci sarebbe un danno erariale, ma bisogna verificare in appello, non mi ricordo che cosa sarà, se il Consiglio di Stato, non so dove riferirà, al TAR, quello che sarà. Certo, però se vale per lui vale per tutti, oppure non vale per nessuno, no? Va bene, grazie. Mariano da Torino, buonasera. Oh, buonasera. Dica, caro Mariano. Ma io per la verità sono stato preso un po' alla sprovvista oggi, perché in realtà volevo intervenire venerdì, però la signorina gentilmente mi ha richiamato e io volentieri partecipo alla trasmissione anche oggi. Non ho capito nulla, scusi Mariano, a me non mi interessa chi ha chiamato e chi non ha chiamato, vada subito al punto, non me ne frega niente, su. Dottor Cruciani, non cominci. Vada, allora, vada, che me ne frega chi l'ha chiamata, chi non l'ha chiamata, sta parlando, perché deve ricominciare da capo questa storia, su. È un fenomeno, Cruciani. Allora, io volevo semplicemente dire, a proposito del discorso di Grillini, Grillo, che voi sottovalutate enormemente la questione Grillo. Ma chi sottovaluta? Ma chi sottovaluta? Beh, non lo sottovaluto per nulla, anzi ho detto che è una formidabile macchina per adesso, governata da due dittatori, che sono Grillo e Casaleggio, punto. Da due dittatori, niente poco di meno che. Ma no, ma dittatori nel senso buono, Mariano, guardi che non do giudizi, per guidare una cosa del genere ci vuole il pugno di ferro, altro che democrazia interna. Quale democrazia? Quale democrazia interna? Ma di che stiamo parlando? Per guidare quella roba lì, ma ci vuole il pugno di ferro, altro che democrazia, se tutti cominciano. E allora? Siamo perfettamente d'accordo. Oh, meno male, ma lei Grillino, dunque lei Grillino, mi sembra, o comunque simpatizzante di Grillo, giusto? Assolutamente, simpatizzante Movimento. Simpatizzante di Grillo dice che c'è bisogno del pugno di ferro di Grillo, giusto? Assolutamente sì, non mi faccio nessuna illusione sul fatto che possa cambiare qualcosa. Meno male. Sia assolutamente chiaro che questo è il modo per cercare di far capire, e tanto non lo capiranno mai, che questa gentaglia che governa da ormai troppo tempo dovrebbe farsi da parte. Il problema è che anche il famoso governo tecnico che abbiamo in questo momento non mi pare che abbia spostato una virgola rispetto agli equilibri. Perché lei la definisce gentaglia? Mi dica, perché lei la definisce gentaglia? Gentaglia, ovviamente non voglio fare di un erbo un fascio, come si usa dire, nel senso che non mi permetto di infangare nessuno onesto, ma sappiamo benissimo che c'è molta gente del tutto disonesta, con sentenze passate in giudicato, che siede sugli scranni dove ben altra gente sedeva in altri paesi. Questo lo sappiamo, è un argomento superato. Ultima parola che ci posso dire. Partorite qualcosa di nuovo. Questo lo sappiamo, dovete partorire cose nuove. Non si può mandare solo a fanculo. Partorite cose nuove. Il D-Day è passato, a Milano non c'era nessuno, ve ne rendete conto o no? Vabbè, era sabato, l'8 settembre. Ah, era sabato, adesso è diventato grillino, Cruciani, hai capito? No, ma era sabato, non hai è che... Hai capito, Margherita, è diventato grillino. Ma no, ma c'è stata una manifestazione a Torino. Hai capito? È diventato grillino. Ma non sono diventato grillino, non dire stupidaggini, su. Va bene, grazie Mariano. Giuseppe, provincia di Salerno, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Mi ricollego, soprattutto c'era il grillino in linea, volevo dire una cosa. Sì. I grillini soprattutto no, parlano di ineleggibilità dopo il terzo mandato, ineleggibilità dopo aver avuto condanne, eccetera, eccetera. Noi in Campania però abbiamo addirittura sfondato un livello fondamentale. Io proporrei almeno l'ineleggibilità dell'orangotango. Cioè? Il nostro Cesaro è un orangotango, cioè l'orangotango sì. Non può rappresentare gli esseri umani. Ma mica l'ho votato io, scusi, ma sto Cesaro, mica l'ho votato io. Non è politica. Sì, ma lasci perdere, questo l'ha già detto De Luca, ma non è che l'ho scelto io sto Cesaro. Cioè, l'hanno scelto i napoletani della provincia di Napoli. Ma io mi incazzo gli elettori di Napoli, gli elettori di Napoli. Ma io mi rivolgo a loro. Quello del World Urban Forum, l'hanno scelto gli elettori di Napoli, quello che non sa parlare, non l'ho scelto io, l'hanno scelto gli elettori della provincia di Napoli. Ed è stata anche una conseguenza delle politiche spallate, ma che conseguenza? Eccetera, eccetera. Ma nessuna conseguenza. Il signor Cesaro, Luigi Cesaro, presidente della provincia di Napoli, che non sa parlare italiano, questo è il punto, non sa parlare italiano, è stato scelto dagli elettori della provincia di Napoli, non dallo Spirito Santo. Però l'ineleggibilità dell'orango dovrebbe essere un principio, capito, sancito dalla biologia. Cioè un orango non ci può un attimo solo. Centralino della provincia di Napoli. Ah, bene. Parla tu, Parenzo, presentati come funziona dell'ONU. Ma a quest'ora le 8:15. Vabbè, lo so, le 8:15. Lo so, hai ragione, sì. Alle 8:15. Hai ragione, però... Se rispondono io accendo un cielo a San Gennaro, Hai ragione anche tu. Se per caso rispondono. Chiamiamo tutti Cesaro che ci sono a Napoli. Tutti Cesaro. Tutti Cesaro che ci sono a Napoli. No, il centralino della provincia di Napoli è difficile che risponda. No, allora chiama l'ufficio, c'è un numero verde, ho visto prima. L'ufficio, quello URP, sai cos'è URP, la sigla URP. Sai della sigla URP? Sì, ufficio per i rapporti col pubblico, una cosa terribile. La sigla URP, ufficio per le relazioni col pubblico, una cosa da cancellare. Fare una però chiamiamo adesso un politico URP. Partenopeo. Un politico partenopeo, vediamo se sa pronunciare World Urban Forum. Fra poco sarà ai nostri microfoni. È 19:44. Effettivamente, l'idea di chiamare il centralino della provincia di Napoli è un'idea sballata perché a quest'ora, ma anche no, il centralino anche della provincia di Milano alle 8:15. Esatto, bravo, bravo. Giuseppe, grazie. Francesco, provincia di Ancona. Si chiami in Svizzera. Buonasera. Sono in quelli di Ancona. Sì, buonasera. Sì. Allora, io vorrei dire due cose, no? Molto importanti. Ma che ci facciamo di questi politici del cavolo? Ma che vuol dire che ci facciamo di questi politici? Di quali? Di personaggi di così basso livello di tipo culturale, di tipo politico, di tipo... Ho capito, ma non sia generico, vada, mi dica nomi e cognomi. Signori i suoi... di cui lei sta parlando, di questo signore, ma di tanti signori come lui, vabbè. Di cui è pieno il Parlamento, tra puttane e fregne varie. Ma che dici, ma quali sono le puttane? Quali sono le puttane? Ma ce ne sono a bizzeffa, l'abbiamo ma lei è un pervertito, lei è un... Ma io non sono un pervertito, ma lei è un maniaco persona... sessuale, ma lei è un... Ma assolutamente. Ma come no, Francesco? Ma assolutamente, a me va anche bene. Ma lei è un fissato, un ossessionato? Ma assolutamente. No. Le vorrebbe in camera sua, non in Parlamento. Assolutamente, io ne ho pieno le tasche delle donne, se per quanto mi riguarda. Quindi praticamente ne sto bene come sto. Il discorso è un altro. Non si può tollerare che in Parlamento siedano certi personaggi. Per esempio, mi dica chi, faccia nomi e cognomi, mi sono stufato di questo qualunquismo. All'elemento di cui parlava prima. Basta parlare di altri elementi che siedono al Parlamento di cui non faccio i nomi. Ma non li sa nemmeno lei i nomi, lei non li sa i nomi, non li sa nemmeno i nomi, questo no, è il punto. Spara a zero senza sapere i nomi. Quello che le voglio dire, lei stia tranquillo. Lei ma io sono tranquillissimo, è lei che dice stronzate. Lei deve innanzitutto avere più orecchie per ascoltare. No, ma lei, io ascolto, deve ma se uno dice... Come i medici... Prima di tutto, prima senta Francesco, io l'ho invitata a fare nomi e cognomi e lei non li sa nemmeno i nomi. Va non bene, li sa. Comunque le posso dire solo non cosa. Li sa i nomi. Lei deve ascoltare. Ma di più faccia, chi i nomi la di, faccia i nomi dei delinquenti. E le posso dire che questi delinquenti eccolo l'hanno qua. Messi veramente al muro. Al perché muro, noi, benissimo. Oltre ad avere 700 e oltre delinquenti, ma lei è un criminale, lo sa. Abbiamo altrettanto tecnici delinquenti. Ma lei, quindi questa gente da mettere ma lei al muro. È uno psicopatico, lei lo sa, lei sa di essere, lei sa di essere psicopatico, parola. Lei sa di avere un problema, sì. No, io non ho un problema. Come no? Lei è psicopatico, io lo dico io. Che da pieno le scatole, no, che ma lei, le tasse, no, ma lei tiene in piedi strutture di questo genere. No, Francesco, lei ha un problema molto serio. Lei ha un problema serio. E io accetto Grillo che fa, ecco, non appunto. Tanto di una situazione un problema. Lei ha un problema serissimo. Creare una rivoluzione è un problema. Lei ha un problema serissimo, Francesco. È un frustrato, non lei. Non siamo più di questi signori. Lei è un frustrato. Non ne possiamo più. Lei è un frustrato. Tra puttane e elementi tra ladri. Lei e è un frustrato. Definirli, non ne possiamo più. Lei è un frustrato, Francesco. Comunque io la ringrazio. Lei io è un frustrato. Lei lo sa, sì. Sono un frustrato, sì. Lei mi sta a ruota, quindi siamo in due. No, no, io non lo sono per niente. Sono in buona compagnia, carissimo. Lei è un frustrato. Buona... Lei è un frustrato. La ringrazio della sua perché presenza, si vuole sfogare senza fare i nomi, ha capito? Io non i nomi, bisogna fare anche attenzione a farli. Ma che perché attenzione uno a può farli, anche su. Riservarti una bella querela. Io non sono tutelato da niente. Lei spara zero senza fare nomi e cognomi, chiama tutti i delinquenti e puttane, ha capito? Perché lei ha capito, al buon intenditore. Ma che ho capito, non basta. Ho capito niente, punto. Non ho capito nulla. Quindi io sono in buona compagnia. Va bene, l'abbraccio, va bene l'abbraccio la forte. L'abbraccio fortissimo, Francesco, l'abbraccio forte. E con noi, beh, signore e signori, in diretta da Strasburgo, il grande ritorno alla Zanzara, Clemente Mastella, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, anche se senza voce. Beh, combattiamo. Però posso dire una cosa, sì, dire una cosa. Sì. E insomma, tutti ce l'hanno un po' con Cesaro. Ma mica sarà l'unico Cesario che... Come si dice a Napoli, storpea un po' l'italiano. Beh, no, però è presidente della provincia, che, Mastella. Sì, no, sto dicendo che ci sono altri politici in Italia, ben più autorevoli, che insomma, fanno un po' a cazzotti con la lingua italiana. Beh, ma su quello, e infatti, quindi, c'è una come lei sa, c'è una letteratura molto ampia, sì, sull'italiano di Pietro. No, ma diciamo, simpatico, poi voglio dire. Come diceva il vecchio Mao, importante è che il gatto sappia cogliere i topi senza... Cioè lei non si scandalizza per il World Urban Forum. Voglio dire, lo pronunci lei, Mastella? Lo pronunci lei, Mastella? Come? Lo pronunci lei World Urban Forum, su? World Urban Forum. Beh, insomma, Urban Forum. Beh, 2 anni di Parlamento Europeo, 3 anni hanno fatto bene, forse anche prima, qualcosa. Eh? Beh, sì, che dice? Qualcosa. Però lei dice Cesaro quasi come Di Pietro in pratica. Ma forse chi questo, è che parla meglio, Cesaro o Di Pietro? Facciamo come con l'ascoltatore prima, il nome, il cognome, cioè io mi lascio un po' di riservatezza. Ma che riservatezza? Lei a Di Pietro si riferiva, su, Mastella, dai. Vabbè, diciamolo, va bene. Diciamolo. Perché... Cioè, okay. Le piace più l'italiano di Mastella, l'italiano di Mastella per carità, su quello insomma, no? Lei abbastanza... Insomma, è abbastanza di inattaccabile. Sì, anche sì, noi siamo attaccabili. Ognuno di noi ha i suoi difetti, anche da questo. Se al nord parlo dialetto, sembra che parlo italiano. Se al sud parliamo in dialetto, è dialetto meridionale. Sì, quello è vero, quello è vero. Si nota più il dialetto del sud che il dialetto, sì. Diciamo, che lo slang del nord, sì, diciamo, no? Fa più così, effetto. Così. Però, così. Adesso, non difenda per forza Cesaro. Uno che va... No, ma io ho detto Cesaro mi è simpatico. Dopodiché potrebbe anche, insomma... fare un po' di apprendistato prima di andare, magari esatto. Un gobbo, un piccolo un gobbetto e riesce a pronunciare meglio. Beh, World non ha messo il gobbetto, vogliono provare il gobbetto per bene, quindi ha fatto fatica a pronunciare. Comunque, è meglio l'italiano di Di Pietro o l'italiano di Cesaro? Mi dica la verità, è sincera verità. Ma guardi, siamo là, Poi, siamo poi lì. Devo dire che Cesaro perlomeno parla un po' in dialetto, parla meglio in dialetto. E invece Di Pietro? Ma, cioè Di Pietro lei dice non c'è nemmeno la... Non mi pare, Antonio, non mi pare che insomma abbia questa grande consuetudine con la lingua dialettale e al tempo stesso mi pare che insomma sia un professore di letteratura italiana all'Università del Molise. Parezzo, che dici? Sei contento di ritrovare il nostro amico Mastella? Sono contento perché era un po' che non lo vedevo in giro, mi stavo quasi preoccupando di cosa fa a Strasburgo. Oh, ragazzi, tocco legno io. No, ma non è andato da Casini a questa cosa di Italia questo... là. Perché non è andato lì da Casini? C'erano tutti là, da Casini lì a Chianciano. Ma forse proprio perché c'erano tutti, allora mancava qualcuno, non lo so gli inviti che hanno fatto. Sai, si va quando uno è invitato, non è che io avessi avuto l'invito. Anche se mi era arrivato per la verità un mezzo invito, però un invito di quello mandato per Farlocco, dice SMS, lei. Dicendo ci vediamo il giorno tot, ma senza alcuna qualificazione. Cioè, non ho capito, Pier Furbi ti ha un po' sfanculato, come si direbbe in gergo. Ma no, non hanno un grande rapporto, diciamo la verità. Pier Furbi, no, il rapporto è corretto, però voglio dire... Beh, un rapporto ormai usurato. Ancora non so, si tratta di vedere dove... dove arriva, fino a che punto c'è questa sorta di estensione dell'area, diciamo, di centro, dell'area di centro del mio amico. Ma che estensione? Diciamo Casini, quindi. Ma suo amico, dai, su. Ha visto che poco fa Italia Futura ha detto... Sì. Che non andava bene quello che si è letto là o si è detto a... Beh, a voglia, ha detto che è un fritto misto in cui c'è di tutto, non si capisce, cose confuse. Soprattutto ha detto che in prima fila c'erano Pomicino, De Mita, Buttiglione, La Malfa, Pisanu e anche la Polverini, che poi in realtà non è... Beata nemmeno. Gioventù. E ha detto, insomma, pur con grande rispetto delle persone, non è certamente una nuova classe dirigente. Adesso, la Polverini in realtà c'entra poco in questa... In questa cosa simpatica, ho visto in questi giorni, scusi la voce, ma sono un po' molto raffreddato. Si sente. Ci dispiace. Ho letto in questi giorni la Bindi che diceva che si difende da quelli che sono avanguardisti all'interno del suo partito, dicendo limite di mandato tra legislature. Le ha detto: ma perché porre un'ipoteca su chi ha idee o magari ha capacità di pensiero? La verità è che, come dire, ognuno cambia a seconda delle circostanze. Io ricordo che la Bindi faceva le battaglie all'interno della Democrazia Cristiana, nella fase finale della DC, dove si discuteva ad Assago, un famoso tipo congresso, insomma, dove si diceva tre mandati e via. Quindi lei era portatrice di questa idea. Cioè, oggi invece ha cambiato opinione. Come vedi, insomma, ognuno cambia un po'. Ma poi non è questo. Davvero, oggettivamente non è questo. Cioè, il mondo è fatto da... Ma scusi... Quando questi dicono gli anziani, eccetera, Mitroni ha 65 anni. Chi? Mitroni, il presidente del presidente. Scusi, il discorso più bello che si è fatto alla convention democratica, chi l'ha fatto? Clinton, che tiene 66 anni. E anche Eastwood, anche Clint Eastwood. Esatto, dall'altro lato, sì, di converso, sì. Viva i vecchi, dunque, viva i vecchi della politica. Ma i vecchi, innanzitutto in questa fase qua, secondo me, meglio i vecchi che i nuovi. Giornale radio. La Zanzara. Wake up, polpetta. The sun is shining, don't you see? Get up, polpetta. There are so many friends to me. Wake up, polpetta. Beh, risentiamo World Urban Forum per l'ennesima volta, eh. Non mi abbandonerà mai questa musichetta soave. Dai! World Urban Forum. Che c'è, Parenzo? No, dico, è uscita una notizia fondamentale, bisognerebbe chiamare il professor Sgarbi, secondo cui l'eolico, quello che lui tanto... Sgarbi aggredito con una tazza di caffè caldo... Quello visto, mi dispiace, bisognerebbe chiamarlo anche per quello, ma l'eolico potrebbe... Un attimo solo. Sì. Sì, Presidente Cesaro? Sono il collaboratore. Sì, le passo il dottor Parenzo, un attimo solo. Hello? Sì? Parenzo speaking from United Nations. Is possible speak with Mr. Cesario? Abbassato. Hello? Abbassato il telefono, era il collaboratore del signor Cesario. Ma secondo me era lui, sì. Ma Stella, la sua voce non era il collaboratore, secondo me. Parenzo? Ma Stella, chi era secondo lei? Secondo me era lui. Ma Cesaro non conosce l'inglese, ma mica è fesso. Ah, in questo senso, non è fesso. Ah, ecco, no. Non è fesso, Credo che, poiché magari l'abbiano sfottuto in parecchi, e allora secondo stia molto attento, mi sa che sta molto, mi sa che sta molto attento. Non risponde. I collaboratori che sanno vedere la linea. Che fanno filtro. Certo. È una tecnica, lei conosce bene. Ma lei... Non ha sempre risposto. No, anche quando devo andare al diavolo. Certo, mi incazzavo, però. Senta, però... ma Renzi le piace? Ma guardi, Renzi fa una cosa un po' democristiana, un po' modernista, tutto meno che piddeista. Tutto meno che piddina. Esatto. Cioè? E infatti, cioè, nel senso che... È un po' grillina, un po' grillina. Le cose che dice, cose che sostiene, insomma, sono cose che, diciamo, la migliore delle ipotesi non piacciono all'establishment del PD. Ah beh, quello quello stava a Sandir, adesso ci dica qualcosa di più originale. Poi che abbia una linea, diciamo, un po' più centrista, molto centrista. Però i grandi partiti sono fatti un po' così. Ma lei piace questo rottamatore, uno che vuole tagliare tutte le teste, dopo 15 anni di Parlamento tutti via? Mica la rivoluzione francese. Eh beh, sembra così, dopo 15 anni di Parlamento tutti a casa. Ma sai, quando tu pochi ghigliottini gli altri, alla fine qualcuno ghigliottina te, che l'ho spiegato il caso da Bindi. Eh beh. Se uno avanza su queste idee, poi arriverà un altro che sarà più avanguardista di te, quindi ha visto che casino che c'è all'interno dei grillini, è la stessa situazione. Questo è interessante, la vecchia saggezza di Mastella, ha ragione Mastella su questo. Quando fai l'epuratore, alla fine c'è qualcuno che esatto, più che... puro di te, che pura lui. Evidente. Beh, vedi che ci vuole ancora Mastella in politica. Ma adesso io il mio dubbio. Esistono ancora le truppe mastellate? Ci sono ancora, come no? Ci sono ancora, certo. Sì, quanti elettori ha secondo lei? Quanti elettori ancora? Quanto vale Mastella? Ma, insomma, non lo so, però qualcosa vale. Che ne so, mezzo milione di voti, 300.000, 200. Ma sui 300.000 certamente sì. Ah, ancora 800.000 voti da parte. A chi li portiamo in dote sti voti? Questo vediamo. Chi mi sposa? Vabbè, ho capito. Avete parlato della dote, quindi chi mi sposa? Ma chi? Ma lei è pronto a rimanere sempre in campo? Come? Ma lei è pronto? 2013 non si arrende, vuole stare in Parlamento nel 2013, diciamola tutta. Ma io ci andrei pure gratis in Parlamento, guardi, nel 2013. Beh, gratis che vuol dire gratis? Certo che ci va gratis, fare? Gratis. Che significa gratis? Gratis significa gratis. Cioè, ci andrebbe di corsa in Parlamento, nel 2013. Ma mi piace la politica come tale. Non vabbè, però uno si dovrebbe arrendere. Ma i soldi li ha, no? Mastella, dopo un po' di. Ma non diciamo i soldi ce l'ho. Sono pieno di debiti, però voglio dire... No, la pensione, dico, ce l'ha. Certo, rispetto ai poveri cristi non... Perché è pieno di debiti, Mastè? Andiamo io, Andrea. Perché ho mutui sulla casa che insomma... Quanti mutui ha sul groppone? Quanti mutui ha sul groppone, Mastella? Uno e mezzo. Uno e mezzo? Uno e l'altro mi chiedono la mano i miei figli, quindi... Vabbè, ma insomma, sono cose fattibili, mica sono mutui. Quanto saranno? 5.000 euro di mutui? Un po' di meno. Sì, più o meno, sì. Più o meno 5.000 euro di mutui. Dunque servono i soldi per rientrare in Parlamento? Certo. Se uno rientra... Ma guardi, non ho fatto mai grandi spese per rientrare. La mia campagna elettorale non è mai stata una campagna elettorale forsennata sul piano del... diciamo, dispendio di risorse oggettivamente. Dire fanno comodo avere altri magari un altro mandato in Parlamento per i mutui che no, le non guadagno più nulla io, quello che è. Cioè in che senso? No, io non aumento la pensione, niente, quello è. Non è che mi serve, no, assolutamente no. Questo ho detto che io la mia pensione credo che sia più o meno uguale a un po' meno a quello che prendono gli attuali deputati italiani. Per cui non le insomma abbastanza. Vabbè, non è che la prende già sta pensione lei, o sì? No. Io non la prendo ora perché sono parlamentare europeo, quindi non la prendo. Non è che c'è il cumulo tra no, pensione appunto, italiana appunto. E sì. Comunque, guardi, no, cioè non è quello, cioè non è quello che però vorrebbe nel 2013. Il problema è economico, assolutamente no, non mi hai fatto questa questione io. Ho capito, ma non mi interessa. Ma sti voti a chi li portiamo, Mastella? I suoi voti ancora, le famose truppe Mastella. Fatemi campagna elettorale, siete miei amici, allora chiedete, ma voi volete Mastella o non volete Mastella? Ma noi lo vogliamo, ma noi un Parlamento domani in poi, dice volete Mastella in Parlamento, magari diranno 80%, no, e sono quelli che, ma a me basta il 20% che mi dica. Ma noi, scusi, Mastella, ma noi se non ci fosse lei in Parlamento, scusi, ma che senso avrebbe il Parlamento italiano nel 2013? Negli ultimi tempi. Sa che molti suoi colleghi giornalisti questo me l'hanno detto. Ma sì, ma c'è insomma, mancanza di effervescenza, c'è un po' di tristezza in più e quindi. Ma sì, no? ma poi scusi, lei potrebbe fare, come dire, anche da portavoce a tutto un mondo imprenditoriale che conosce bene, il signor Della Valle. No, portavoce adesso, per carità, detto con tutto il rispetto. Portavoce, potrebbe essere portatore, non portavoce. Portatore intanto, dalle mie parti. Come? Porta che sciotta faccio. No, quello no, che c'entra. Però vogliamo dire, cioè, rispetto a Renzi, lei per esempio, di un'altra statura politica, si pensa di essere di un'altra statura rispetto alle cose che dice Renzi o no? Che viene da sempre da quel mondo. Effettivamente sì. Visto Renzi, visto Renzi. Io faccio, diciamo, riconoscimento a Renzi perché lui ha una sua cultura che è quella democristiana. Però, diciamo, se bisogna scegliere un democristiano, scegliete me, non Renzi, dice lei, no? Ah, su questo non c'è il mio dubbio, però io non concorro alle primarie del PD. No, quello quindi... no, figuriamoci, quello no. Comunque, sta bene, ragazzi. No, un attimo solo, voglio chiedere una cosa sulla questione di Ingroia, che oggi è stato bacchettato dall'Associazione Nazionale Magistrati, che si sveglia un po' tardi per dire che Ingroia fa politica. Mi sembra di poter dire, Mastella, no? Cioè, nel senso, oggi scopre... Non entro nel merito perché sennò, però insomma, io credo negli ultimi tempi Ingroia abbia un po' abusato. Senza entrare nel merito, perché io sono... contro il conflitto tra poteri dello Stato, ci ho sempre portato avanti questo tipo di tesi, impostazione, mi dispiace che oggi sia questo conflitto tra capo dello Stato e magistratura di Palermo, però devo dire il troppo è troppo, cioè io mi sarei fermato, insomma, mi avrebbe sentato il libro in tre posti e basta, insomma, il suo libro. Magari se me l'avesse chiesto qualcuno avrei ospitato anche a Benevento volentieri, quindi aprendo un dibattito molto sereno, molto serio. Però quando però tu decidi che vai in Guatemala, e c'è una scelta di vita, una scelta, io credo che un minimo di modalità, diciamo, un po' più cauta, un po' più... Vabbè, questo è scontato che lei lo dica. Meno offensivista, ecco, sul piano più generale. Dopodiché tutti i rispetti possibili e immaginabili per quello che è la sua attività, però insomma non, mi pare che probabilmente forse sia andato un po' al di là, non lo so, però comunque vedremo quello che ripiegherà. Sai, tra personaggi come Ingroia e la MM credo che non c'è stato mai grande feeling, probabilmente. Sì, quindi probabilmente è così. Probabilmente è così. Nei prossimi giorni. Allora, intanto un mio amico mi manda un messaggio, non so chi sia, aggredito Vittorio Sgarbi, le sue urla hanno attirato l'attenzione dei passanti che sono subito accorsi pensando a un dibattito. Mastella, la ringrazio. Eccoci qui, Giorgio da Milano, 800240024. Giorgio. Buonasera, Cruciani. Vada, Giorgio. Che bello sentire quel jingle che ho detto. Sembra più sensato dei pensieri che mi scorrono nella mia mente, ammesso che ne avessi uno. Io ho chiamato per una cosa in particolare, visto che eravate partiti correnti. Io mi ricordo, sarebbe bello che voi siete capaci perché lo potete ed è il vostro compito, le riprese di Renzi quando appena eletto sindaco, io presidente del consiglio, il sindaco di Firenze è il lavoro più bello del mondo, mai io qua su giù, sarà banale, però sarebbe bello vedere praticamente da quando si sarebbe rifiutato di entrare in politica secondo lui per il bene della sua città e adesso che vuole spingere fuori tutti per prendere il posto di Bersani. Ma che c'entra? Eh? Ma che c'entra? In questi anni Renzi ha fatto il sindaco, bene o male lo decideranno gli elettori, e un dirigente del PD ha deciso di sfidare i vertici. Non è che siccome fino a qualche anno fa diceva che non l'aveva mai fatto, allora le ambizioni personali vanno, come dire, vanno valutate, vanno viste, vediamo se convince o non convince. Della credibilità. Appena eletto sindaco ha detto che mai e poi mai oltre quello che lavora più bello del mondo, adesso è lecito e fa bene. Sì, anzi, sì, vanno le critiche, le critiche vanno tutte bene, quando uno si candida dice sempre... Ma non su questa cosa. Sì, ma quando uno si candida... No, le critiche vanno bene... Spero che abbia successo, è bello vedere il contrasto solo delle dichiarazioni, tutto lì, non è che è una campagna politica la mia. No, ma non c'è dubbio che quando uno si candida dichiara amore per sempre alla città, governerò per un mandato, per due mandati, eccetera, eccetera. Poi le ambizioni cambiano, la vita cambia, tutto cambia e nascono nuove passioni, nuove cose, eccetera. Dunque le contraddizioni si possono... trovare, non c'è dubbio. Allora vale questo discorso per chiunque adesso, quando sarà il momento, dice no, prende candida, dice fa e poi la vita cambia, eccetera, quindi programmi, eccetera. È sempre stato così in Italia, però possiamo far valere anche per le, diciamo, le elezioni, quelle classiche che arriveranno quando troveranno la legge elettorale, cioè dire quello che si vuole prima, perché tanto poi la vita cambia, eccetera, quindi ci si adegua. No, ma è giusto criticare. Se uno dice rimarrò qui a Firenze per tutta la durata del mandato e non farò nient'altro, adesso evidentemente tutto questo è in contraddizione con quello che avviene. D'altra parte anche Deborah Serracchiani, che ha criticato Renzi su questo, è al Parlamento europeo e si candida alla regione Friuli Venezia Giulia. Dunque le contraddizioni ce l'hanno un po' tutti. Lo scontro mitico qui alla Zanzara, beh, direi uno scontro all'ultimo sangue, si potrebbe dire così, tra Oliviero Toscani e Vittorio Sgarbi. È iniziato Toscani con il sesso di Sgarbi, sentite. Questo è bellissimo. Beh, Sgarbi, poverino, lui è finito da tanto tempo. Beh, lui è proprio, come ho detto, coitus interrupto, non riesce proprio, non ci arriva. A me non me ne frega niente, se Sgarbi in potenza, no. Sono pazze del mio sorriso, mi adorano perché abbandono il mio corpo. Toscani mette in dubbio le capacità sessuali di Sgarbi. Sgarbi risponde: certamente uno che cocaina ne ha presa e droga ne prende tuttora è Oliviero Toscani, non c'è alcun dubbio su questo. Quindi, non c'è dubbio su questo, l'ha presa e la continua a prendere. E uno che gliela dà certamente è Gian Marinaro. Non fai sesso, drogato, risponde l'altro. Gli scambi amorevoli tra Sgarbi e Toscani. Ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. Antonio, provincia di Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo dire che quella voce che chiude la trasmissione, prima di riconoscerla. Sì. Io faccio la stessa vita di quel signore là del casello di Carisio, anche se sì. Al mio casello forse arrivo dopo le 9. Vuole ridere anche lei? Sì, Sgarbi veramente è uno che non condivido, però quando l'ha offesa mi ha fatto anche tanto ridere. Questo. Beh, ma è giusto così, Io non mi sono offeso perché ha fatto ridere anche me. Infatti io l'ho capito a Cruciani e per la prima volta ho chiamato. C'è l'audio di Sgarbi che mi offende, uno dei più cliccati sul sito di Libero, per esempio, più visto. Ma e la gente mi chiede perché non ti sei offeso, no? Perché mi ha fatto ridere, perché i matti mi fanno ridere a me, i matti mi fanno scompisciare dalle risate. Ecco, io avevo chiamato però, perché a me Cesaro mi fa ridere. Mastella però ancora mi indigna un po', cioè le figure come Mastella veramente. Perché addirittura indignarsi? Ma non si indigni più. Mastella veramente è uno che. Ma non si indigni più, che gliene frega. No, ma c'ha una responsabilità. Adesso anche sul piano storico, nel 2008 quando lui manda il governo Prodi alle elezioni, lui. Ma non è lui. È stato lui. Ma lì c'è tutta una teoria, c'è tutta la vicenda dell'inchiesta, la magistratura, l'avviso di garanzia alla moglie, secondo alcuni è stato Mastella a fare cadere il governo Prodi, secondo altri è stata la sinistra estrema, insomma non se ne usciva. No, ma col profilo di Mastella, anche per Gresso, cioè di uno che si è buttato a sinistra, poi si è ributtato a destra, poi si è buttato a sinistra, poi ma Mastella è Mastella, è incriticabile Mastella, è una specie di icona, una specie di... No, ma Mastella secondo me è uno che anche se così fa il simpatico, il tifoso del Napoli, però per me è uno che in Italia è l'archetipo di quelli che avranno la responsabilità sul piano storico fra 20-30 anni, quando i nostri figli, i nostri nipoti dovranno risolvere le questioni che noi, incartati come siamo, non riusciamo a forzare. Comunque, vabbè, ma insomma adesso non è che sia il simbolo del male in assoluto, il debito pubblico non è che l'ha fatto solo Mastella, dai, su. No, è uno che riproponendosi, no? Per esempio Cirillo Pomicino si ripropone, molto simile, molto vicino anche politicamente, però con un approccio diverso. Mastella è uno che vuole su di sé delle responsabilità, è uno che vuole su di sé un peso specifico che secondo me oggi è molto pericoloso. E per questo motivo spero che proprio Grillo, non perché io voterò per Grillo, faccia proprio da che? Che sia, diciamo, quel... Cioè proprio perché c'è Grillo, lei dice non candideranno persone come Mastella o altri. Quando la zanzarina... Beh, scontro Montezemolo-Casini molto forte, magari è solo apparenza, magari è solo... Però c'è un'area di centro che deve essere occupata e c'è una competizione. E da Chianciano messaggi confusi, il leader centrista ha replicato pubblicando una foto con il treno Italo e la concorrenza bellezza. C'è questa foto con Cesa e Casini di fronte al treno Italo. Mostra anche di avere una certa ironia, signor Casini, signor Casini. Luca, provincia di Varese, chiama la zanzara, dica. Sì, faccio un intervento perché ultimamente vi sto seguendo, no? E sento un sacco di critiche contro i politici, no? Sì. Politici che di fatto rappresentano un voto dell'elettore, dove da una parte si dice crisi, rubano, crisi, tutto, però in realtà a me è capitato questo sabato, no? Dove si parla di grande crisi. Io parto da Varese per andare al parco acquatico, al parco di Disney, Gardaland, l'autostrada piena. 7 chilometri di uscita Peschiera per raggiungere il parco. Ma questo che c'entra, scusi? No, c'entra in questo senso l'intervento. Da un lato si dà dei ladri politici, dove si dice rubano, sono quelli che hanno buttato giù, usato il pubblico. Dall'altro lato si parla di crisi, dove la crisi non è che impedisce alla gente di andare a Gardaland e passare una domenica con i bambini, eccetera. No, non è passata domenica, perché è una domenica che comunque per entrare costa 38 euro. Ma ho capito, Luca, ma non è che siamo alla povertà qui, eh? Cioè, no, non è che la gente, capito, è ridotta in povertà. In realtà, secondo me, si parla di crisi, ma in realtà non c'è. Nel senso, ma come no, sono furbetti parlamentari, sono i furbetti anche. Vabbè, qui siamo alla fine. No, per ma cui... che ci sia, vuol dire, un'esagerazione nelle parole, non c'è dubbio. No, ma perché, ma ultimamente sento la vostra trasmissione, sono tutti ladri da una parte, in realtà poi. Ma lei ha ragione su questo. Come al solito, i politici sono uno specchio della società civile, ripeto, esatto, una vecchia frase. Ecco, l'intervento era solo questo, cioè dicendo, in realtà. Li eleggiamo noi, ma poi siamo noi che ci comportiamo nello ugual modo, punto. Ladri ladri, ma poi in autostrada è piena, la crisi non, la crisi che si va in giro a dire fortemente, secondo me non c'è, perché andare al parco giochi un giorno sono 200-300 euro. Ma che c'entra? Ma come si fa nel giorno in cui ci sono gli operai dell'Alcoa che hanno manifestato così duramente a Roma a dire una puttanata mega galattica? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra gli operai dell'Alcoa che c'è una crisi particolare? Ma no, ma voglio dire, proprio oggi abbiamo davanti agli occhi, io ce l'ho. Non è una puttanata, io sto dicendo che da un lato... È ovvio che c'è chi ha i soldi e va a Gardaland, è ovvio, chi ha un po' di due lirette va a Gardaland. Vabbè, ma due lirette, c'era 7 chilometri di uscita. Ho capito, di ma non è un indicatore. Ma è un indicatore di chi, di cosa? È un indicatore di cosa? È un indicatore che non siamo, che non è che siamo alla rovina totale, che non ci va nemmeno a Gardaland. Alla rovina totale, poi ci sono le zone dove c'è una fortissima crisi, dove ci sono sicuramente gli operai che rischiano di rimanere a casa senza, va bene, però dall'altro lato sento continuamente questo continuare a dar contro, però poi le autostrade sono piene, punto. Ma poi perché la gente non è che sta ferma, la gente va a muoversi anche per lavorare, no? Ma grazie di indicatore. No, al sabato non penso proprio, eh. E poi comunque basta vedere le presenze, il parco era pieno e sicuramente si parla. Ma io non ho capito, ma stiamo a sentire uno che fa i sondaggi basandosi sul parco di Gardaland, ma di che parliamo? Cioè non è che la crisi delle aziende italiane, delle piccole e medie imprese va, si può, come dire, valutare sul fatto che il parco di Gardaland è pieno. Meno male che è pieno, perché c'è. Ma lei si rende conto, scusi, mi fa incazzare, perché lei si rende conto, dice guardi, io sono stato a Gardaland e il Brucomela aveva una lunga fila, il Brucomela. Ma non sarà mica statisticamente interessante sapere che il Brucomela aveva una fila di 10 minuti, ma di che parla? Ho capito, però non ha, voglio dire, l'ascoltatore vuole semplicemente sostenere questa tesi. Sì, d'accordo, però perché lo estende al fatto della crisi. Guarda, nella carrozza dei cavalli che gira c'era una fila di 6 minuti, questo dimostra, ma cosa vuol dire? Dimostra nulla, dimostra comunque che non c'era. Dimostra che al Brucomela c'era la fila e chi se ne frega. Sì, ho capito che ancora qualche soldino da spendere ce l'abbiamo, diciamo, no? O no? O sbaglio? Basta. Oh, parlate! Io vabbè, arrivederci, Andrea da Firenze. Ma questo qui, ma io hai capito, hai detto buonasera, dica. Sì, allora io mi voglio riferire a quell'intervento del signore di Bologna che diceva che Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti. Sì. Ma Renzi, glielo posso dire io che sono di Firenze e sì, lo conosco anche personalmente, è un po' un vizietto suo. Oliviero? Sì. La zanzara, che succede? No, niente, ma perché mi sono sentito per radio. Ah, che è successo? Il mio amico Sgarbi parlava. Ah, sì, il mio amico Sgarbi parlava, ha detto delle cose tremende su di te. No, tremende, molto ridicolo. Finalmente il comico ce l'abbiamo, non è Grillo, è Sgarbi il comico. Ma perché dice della cocaina, la cocaina, Gianmarinaro? Lui era alle dipendenze, cioè era alle dipendenze di Gianmarinaro a Salemi. No, ma infatti lui, mi sono stupito. Io continuavo a dire che c'è un problema qua di mafia, Sgarbi, c'è un problema. No, non è vero, non esiste Gianmarinaro, una persona, forse ha capito, ma è lui che era la dipendente. Ma adesso non so, scusa, deve avere delle prove, delle testimonianze. Infatti, ho delle testimonianze che Sgarbi è impotente invece. Che testimonianze hai? Delle signore che dicono che Sgarbi è impotente. Ma chi? Ma le signore chi, per esempio? No, non posso far nomi, scusate, questo è chiaro, non posso far. Cioè, appena arriva il momento lì, facci lecca, non gliela fa. No, proprio non ce la fa, lui deve palpeggiare, lui è un digitale. Beh, mi ricorda qualcuno però questo. Digitale, è un digitale. Cioè, si limita a palpeggiare, dici tu, no? Sì, palpeggia, lui deve sempre toccare come un bambino, no? Ma perché, ma ci, non ci prova nemmeno allora, oppure ci prova e ha capito che ormai non lo so se prova o non prova, comunque non, alla fine non arriva niente. Ma ci sono le pilloline per quello, perché non piglia qualche pillolina? Appunto, ma diglielo tu, ma io non faccio così consigliere. Però ma scusami Oliviero, Sgarbi poverino adesso ha proprio dei problemi col suo partito della rivoluzione, insomma fa ridere tutti. E poi io gli dico sempre, Sgarbi, sai che da chiasso in su nessuno ti conosce, insomma. Ah, lei, ah, tu dici? E questo è un problema per lui, grandioso. Però scusa Oliviero, quelle accuse che ha fatto sono gravissime, adesso non so se le dice... Se no, le dice... ma piccola, sono gravi, ma figo, gravi. Beh, ti ha dato del cocainomane in pratica. Ma sì, vabbè, è troppo facile parlare così, poveretto, Sgarbi... Sgarbi... Ma scusa, tu fai uso di cocaina, no? Ma neanche per sogno, perché c'è una cosa che ho sempre detestato, ho sempre combattuto, proprio questo, per questo mi fa ridere. Quando uno pirla, c'è niente da fare. Cioè, uno dice... No, però scusa. Pirla, non c'è speranza. Ma uno dice una cosa, questo fa uso di cocaina, e lei... Ma cosa è un'accusa così? Adesso vedremo. Beh, cosa insomma, è una cosa... No, per carità... È facile dire così, ma dai, sono quelle cose facili da dire. Sì, si dice delle persone... delle quali non ci si può difendere, era una vigliaccata la Sgarbi. No, ma infatti. Vabbè, ma devo dire che a me è veramente comico adesso. E devo dire che è anche un po' patetico. No, però mi interessa un aspetto, Oliviero. Dimmi. Cioè, tutte queste donne che tu dici. Prendi la voce. No, lui dice tutte queste donne che tu dici? Tutte queste donne che tu dici con cui alla fine lui manco, cioè le tocca, si struscia un po', cioè, quella è la cosa. Si attacca, è come un polipino, sta lì con le mani, accarezza, poi. Allora lui dice di essere stato anche con la pornostar Vittoria Risi e dunque. Ah, beh, con la pornostar, scusa, è come andare in bicicletta su una bicicletta, insomma non è, va benissimo, ma io non credo che la signora Risi ha bisogno di questi estremi qui per arrapparsi. Bisognerebbe chiamarla la signora Risi per dirimere la questione in maniera definitiva. Insomma. Ma sì, ma non credo sia la persona giusta a cui chiedere questo. Chi è? Non credo, se ci vuole una donna normale, insomma. No? Vabbè, ho capito, però non è che se uno non ce la fa, non ce la fa sempre. Cioè, non è che ce la fa con la pornostar. Ma la pornostar ti dice che ce la fa perché è così. Forse per lei è anche divertente. Ah, beh, io... certo, perché non vuole sputtanare. Non vuole sputtanarlo. Non lo vuole sputtanare. Niente celebrità l'ha avuto con Sgarbi, adesso non può. Hai ragione, Oliviero, hai ragione. Con Sgarbi, dai, mi stupendo, perché alla fine è un bravo ragazzo, è anche un uomo generoso, ma è pirla, tutto qua. Il problema di Sgarbi è che è pirla, è la persona più perfetta. Se dovessi fare una campagna sulla pirlagine, fare il ritratto Sgarbi. Ma perché, scusa, perché dici pirla? Che vuol dire pirla? Pirla è perfetto, voglio dire, non è uno... particolarmente stupido, no, non è uno stupido. Ma come? Non è un ignorante, un pirla, uno che gira vuoto, che alla fine non conclude niente, che alla fine parla, ma alla fine cosa fa? Niente. Ma qual è il problema che ha? I soldi anche? Ma che è successo? No, Sgarbi è impotente alla fine, è pirla, impotente. È impotente in tutto, dici tu? Sì, guardate, poteva fare un mestiere, che era fare critico d'arte, sì. E purtroppo non lo fa. Non fa quello. Dunque dici fa che fa? Un sacco di cazzate. Il partito della rivoluzione se lo pinde il culo. Deve essere volgare per essere capito. È un pirla. Un pirla, vabbè. Un pirla, adesso si chiama più. No, però è vero, tu dici chiama... prima faceva. Ma Vittorio Pirla primo. Ma scusa un attimo, ma. Ma non hai provato a fare la pace qualche volta con lui dopo quello scazzo che avete avuto? No, ma sicuro non mica. Ma... Scusate, divertente tutta questa storia, io trovo. No, alla fine me la prendo così, perché cosa vuoi che faccia? Uno dice una cazzata simile come Sgarbi, non puoi che ridere. No, se ci fosse un po' di verità uno si incazzerebbe anche, ma figurati. Trovo che sia un pirlone. È l'accusa più facile che puoi fare a chiunque. Cioè essere cocainomano. Non è probabile, ma è logico. Ma come che cosa beh, ma nemmeno dire? Quella che dici tu è probabile in teoria. No, purtroppo. Invece lì hai testimonianze, lì hai testimonianze. Ma di gente normale, di ragazze normali, dici tu, no? Di donne. Donne, vabbè. Prima o poi Parenzo verranno a testimoniare queste donne. No, ma infatti, Oliviero, quello che non capisco... C'è lì che chiacchieri, datevi da fare, ragazzi, scoprite queste donne. Appunto, no, ma dacci qualche indicazione, qualche numero. Parlate di matrimoni gay, non è bellato, vorrei avere qualcosa di più concreto, anche per radio. Appunto, no, bisogna avere le famose donne di Sgarbi con cui nisba. Cercato di visualizzare per radio delle cose così. Ma io è quello che facciamo. T'abbraccio, no, grazie. Quello che lo aspetto, Allora ragazzi, vi ho sentito per caso. Che dici Parenzo? No, stai... posso vi ascolto, stasera funziona. Quello che non capisco, Oliviero, è come queste donne possano acconsentire a farsi ciacciare un po' in giro e poi non arrivare al punto. Questa è la cosa. Scambi, arrivano, allora se lui c'ha sempre queste due o tre figlie, dice lui attorno, allora capisci, hanno un momento di celebrità. Purtroppo è anche abbastanza bizzarra la cosa, un po' triste. È triste. Sì, un po' io trovo, l'ho sempre trovato, l'ho sempre detto. Un po' triste. Povere ragazze. Vabbè. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola. Beh, bisogna ormai dirimere questa questione, Una questione fondamentale per la politica italiana, per il futuro di tutti noi, cari ascoltatori della Zanzara, voi che siete in ascolto, sono vere o no le parole di Oliviero Toscani, ribadite pochi istanti fa la Zanzara, ribadite qui, parole che impongono una riflessione, parole che impongono una telefonata fra pochissima, un'amica del dottore Sgarbi. Un'amica che è stata anche nostra ospite alla Zanzara, una pornostar, la signora Vittoria Risi, non so se ve la ricordate. Le parole di Toscani, ribadite pochi minuti fa, ripetiamola questa cosa, ribadite. Toscani ha detto, ho le prove tangibili, le prove concrete della impotenza di Sgarbi, una cosa gravissima, ha detto, gravissima. Eravamo con Andrea o sbaglio? Andrea? Sì. Allora, Andrea. Io, ecco. Senta, no, intanto siete dei disgraziati perché voi mi fate morire dal ridere. Con questa gente siete dei micidiali perché... Comunque, a parte questo... Lei è interessato alla situazione sessuale del signor Sgarbi? Certo, sono anzi, scovate. Pronto? Le donne! Scovate? Pronto? Signora Risi? Vittoria? Chi è? Buonasera, la Zanzara, come sta? Salve. Cara Vittoria, come stai? Che cosa indossi esattamente? Senti, devo chiederti una cosa che gravissima. Che cosa indossa la signora Ma perché Risi? Devi chiedere alla signora Risi che cosa indossa? Perché è più facile chiedere che cosa Ma indossa. Ma non è vero. Che cosa non indossa. È una persona anche morigerata, sa essere anche tranquilla, non è che sta sempre nuda, Parenzo, su. Scusa signora Risi, dica qualcosa a Parenzo, che pensa sempre che una perché fa la pornostar è sempre nuda. Dai, la maggior parte, no, diciamo che quando si fa gli spettacoli, sì, la maggior parte è nuda. Appunto, quando lo fa gli spettacoli. Non capisci un fatto. Non posso andare in giro, mi arresterebbero. Certo, no, che c'è? Dico, in una giornata delle 24, ognuno lavora, no? C'è l'operaio, ha la tuta blu, sì. Cruciani ha quei vestiti con quelle cravatte ridicole, io anche, sì. Eccetera. La signora Risi, nel corso delle 24 ore, al netto di tutto, l'80% è nuda, 20% è vestito. Ma non è vero, sarà il 30. Diciamo che tutta la notte, ovviamente, è nuda. Perché mi piace dormire nuda. Esatto, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Guarda, ma anche tu dormi nudo, Cruciani? Poi io ogni tanto, sì, ma nudo completamente? Sì, ogni tanto, ma mi dà fastidio in realtà. Sono è diverso per gli uomini o per le donne, comunque, come è evidente. Insomma, è inutile scendere nel dettaglio adesso di queste cose. Tu dormi nudo. Ma io ogni tanto, sì, ma che ti frega a te? Cioè, ma cosa lo stanno alla radio. Ma cosa ti importa se dormo nudo o vestito? Non importa a nessuno. È una roba schifo agghiacciante. Proprio. Ma perché agghiacciante? Chi l'ha detto? Dipende, per qualcuno è agghiacciante, per altri no. Allora, stiamo parlando con Vittoria Risi, pornostar, amica di Sgarbi. Qui dobbiamo dirimere una questione fondamentale, sì, cara sì. Signora Risi. La cosa è una questione decisiva, guardi, per le sorti, non dico dell'umanità, ma sicuramente per le sorti di una buona parte dell'Italia, in particolare per il partito della rivoluzione fondato dal signor Sgarbi. Allora, Oliviero Toscani, si conosce il signor Toscani, fotografo? Sì, certo. Ecco, benissimo, sostiene una cosa, dice che Sgarbi... come si può dire? Parenzo, sì, no? Tu subito sul punto, diretto, dai, su. Cioè, sostiene che alla fine tutto palpeggia. Palpeggia, fa, eccetera, ma poi al dunque niente, nisba. Insomma, non funziona. Guarda, assolutamente posso affermare che invece Vittorio sì. è più porno star e porno attore di me. Ma no, su. Fa una vita che è una cosa allucinante, anche sessuale soprattutto. Vabbè. E lo posso confermare dal momento che. Dal momento che avete avuto una relazione. Lo frequento anche. anche biblicamente, come dire, no? Certo. No, però adesso lei potrebbe dire: io sono amica di Sgarbi, non voglio metterlo. Non sapevo questa cosa veramente. Cioè, Toscani ha fatto un attacco pazzesco, anche qui l'ha ribaduto. Ho delle prove testimoniali di ragazze che sono state con Sgarbi e che hanno detto: beh, oh, questo qua alla fine non ce la fa. Ma no, assolutamente. Io quello che ho provato, anzi, è molto nutrita la sua schiera di. Il suo letto è molto nutrito. Vabbè, non quello, sono si la sola quello si sapeva. Però poi alla fine conclude o non conclude? Va al dunque oppure no? Oppure è una storia ma un po' certo, di... Certo, assolutamente. Sì, anzi che, cioè uno prestante. Anzi, lui non dorme in pratica. In che per senso? Tutta la notte una rimane sveglia. Una rimane sveglia tutta la notte, cioè fa l'amore tutta la notte. Certo. No, scusi però signora... Però qui c'è una contraddizione spaventosa. Lei che ha una certa esperienza, cioè quanti uomini ha avuto nella sua vita? Giusto per avere un'indicazione. Beh, 100 sicuro, più di 100. Diciamo 30. No, di più. Dai, ma diciamo, non so, dare un 200. Più di 100, più di 100 diciamo, no? Più di 100. No, vabbè, ma sono più gli attori, diciamo, che non quelli della vita privata. Più gli attori, certo, più gli attori. In tutto, quante, in tutto, tra attori e non. 250 diciamo. Ma perché dispari i numeri? Non lo so. No, meno, vabbè, allora... No, volevo capire, diciamo 200, diciamo, pensa poco 200. Vabbè, hai detto. Nella top dei 200, Vittorio Sgarbi, a che punto sta della top, diciamo, top 10? Ma adesso cosa mi fate fare? Non so, ma è scoppiato il caso, è scoppiato il caso sulla situazione, perché insomma Toscani fa delle accuse molto precise, cioè dietro lo accusa col sesso, ha finito da tempo, ormai non riesce più, eccetera eccetera. Ma non è vero assolutamente, non è vero, vabbè, lei smentisce assolutamente, anzi è una sorta no, di... No, non sapevo neanche di questa diatriba, sinceramente mi avete colto in... Vada su coso, vada su Dagospia, su altri siti eccetera, cioè, va bene, andrò metta... sono stata un po' in giro quindi non sono uscita. No, certo, metta Sgarbi Toscani e ci sarà questa querelle spaventosa. Va bene, lo sentirò. Vabbè, comunque lei smentisce. No, assolutamente, lei... confermo che invece, e ho sempre affermato da quando l'ho conosciuto, sì? Che fa una vita, soprattutto anche sessuale, molto più nutrita della mia. Quindi, cioè, è molto... Sono rimasta stupita pure io. Ma nella sua esperienza è un toro, si può dire, certo. Che è una specie, insomma, uno... Ma certo, ha la stessa foga che ha nel parlare, nell'agire le cose. Questo disse la signora Risi. Mi pare un po' di propaganda brezhneviana, comunque. Un po' di propaganda prosgarbiana, un po' di propaganda prosgarbiana. No, vabbè, io dico quello che ho provato, poi giusto. È una cosa un po' privata di cui parlarne, voglio dire. Ma qui non c'è privato. Non sapevo, mi avete colto in sorpresa. Ma il privato non esiste, signora Risi. Cerchiamo di essere molto Qui trasformiamo tutto il privato in pubblico. Trasformiamo bene, il privato in pubblico. Che non è il giornale di Telese. Ma... Grazie, un abbraccio, un bacio, a presto, signora Risi. Un bacio. Ciao. Non ti emozionare troppo, Parenzo, so che queste cose a te ti emozionano. Ciao, no? Un bacio, perché come lo dice? Mauro da Milano, buonasera. Perché Mauro? Perché c'è Mauro? Mauro, un ascoltatore da Milano, persona normale. Mauro non c'è, Luigi da Monza, no, anzi c'era Andrea da Firenze che abbiamo fatto aspettare tre ore. Lei è stato interessante quello che diceva. Sì, e allora, intanto dicevo che la signora mi sa che bisognerebbe mandarla a Collodi. Perché? La fase ai Pinocchio. Ah, vabbè, dai, su. Perché anche il signor Sgarbi comincia ad avere una 60 d'anni. E vabbè, oh, ma la testimonianza è questa, certo, è un'amica, è un'amica. Il discorso è questo, o fa come con le moto d'epoca, per farle entrare in moto gli danno il cicchetto. Lei dice che niente, anche lei della scuola Toscani. Penso proprio di sì, perché chi parla di morto poi arriva al fondo che... Ma lei che voleva dire di... Che voleva dire di... Sì, volevo dire di Renzi, perché meno male l'abbino un po' al Sgarbi, per due cose diverse, E io volevo dire che quel signore di Bologna ha detto che è stato condannato dalla Corte dei Conti perché aveva sistemato un paio d'amichetti. ma secondo me è un po' il vizio di Renzi, perché anche da sindaco di Firenze ha sistemato un paio d'amichetti o anche tre, e vale a dire ha sistemato un ex assessore che insomma non era granché, l'ha sistemato presidente di Mercafir al mercato ortofrutticolo, poi l'assessore, ma l'ha piazzato, che vuol dire che sono gente di cui si fida, amici suoi, punto e basta. Ma insomma gente sì ha voglia, poi gente l'assessore, l'ex assessore alla cultura da Empoli, che si era scocciato di stare in consiglio comunale e guarda caso l'ha fatto sedere alla scrivania di Montale al gabinetto Vessier. Lei sa molte cose degli impicci politici toscani. Io sono di Firenze. No, ma ho capito, ma qual è, che cosa imputa a Renzi? Non ho capito, di aver piazzato gli amici suoi, allora? Io devo dire che per me è un grande bluff. Io fra l'altro lo conosco personalmente. E per me è un grosso bluff, vale a dire lui... Perché è un bluff, Andrea? Mi spieghi meglio. Sì, perché? Perché lui parla, va, lo invitano anche ai girotondo dei bambini, ai giardini pubblici, lui c'è, poi si arriva in fondo a stringere e tante cose importanti non è riuscito nemmeno a farle. Bene, ho capito. Ad esempio la tranvia, si rimanda, la casa della musica, lui critica, ora ho sentito che ha criticato Veltroni aspramente, non è che Veltroni sia il massimo, ha fatto dei grossissimi errori eccetera, però bene o male la casa della musica era pronta, con Renzi siamo quasi alla fine, è sempre ferma. Comunque guardi Andrea, guardi che tra l'altro nelle frasi di oggi di Renzi a Veltroni manca una parte, quando parla, cioè almeno manca una parte, non è stata riportata correttamente dalle agenzie eccetera, ha detto ha fatto bene come romanziere e come sindaco di Roma, poi è evidente che la frase sul romanziere è quella che pesa di più. Gerlando, provincia di Palermo. Andrea, grazie. Gerlando, provincia di Palermo. Gerlando. Palermo città, Mondello, bene, precisione. Vada. Dicevo Palermo, Mondello per la precisione, che in realtà è un quartiere della città. Allora? Sì, lo so. Pronto? Sgarbi, ho anch'io una mia idea su Sgarbi. Lo ritengo una persona intelligente, con un carattere del piffero, che si emerge che il suo maggior cliente è la Chiesa Cattolica. Bah. Che d'altronde è proprietaria dell'80% dei beni culturali italiani. Ho capito, ma a me io penso che lui dell'argomento Chiesa Cattolica eccetera eccetera se ne fotta. No, c'è, perché se poi gli Sgarbi lo vede in televisione che blocca la signora del Loire e non la fa parlare perché gli chiede se conosce chi è Tino Tanica o una cosa del genere. Ma lei dice che c'è un conflitto di interessi stupita. Anche su questo, non ho capito. Il conflitto di interessi è intrinseco nell'Italia. Io vivo in una regione che se lei... Però Gerlando, già mi sono annoiato. Mi dica una cosa di concreto. Qual è il problema? Che cos'è che vuole dire di Sgarbi? Ma concretamente si potrebbe dire che in Italia il problema viene preso dal culo, scusando il termine, visto che sono in radio, sì, invece che dalle corna. E abbiamo la Chiesa Cattolica che governa da sempre... E nessuno dice niente, gli fa fare, anzi continuiamo a tenere i loro simboli nelle scuole e a coltivare nuove pecorelle gestite dalla Gelmini che sta a calpestare la geologia, l'astronomia. Sono le 20:46, Parenzo. Cioè ci vuole un'ambulanzina, vero? Beh, insomma, magari un'ambulanzina piccola, però ci vuole. Una piccola visita. Per il signor Gerlando. Eccola qua, signor Gerlando. No, dunque è passato dal Vaticano alla Gelmini in un batter d'occhio, no? Servito. Gerlando? Sì. Mondello? L'abbiamo servita. Mondello? Mondello, mai pagato pizzo. Ho scoperto dai giornali che a Mondello tutti pagavano il pizzo. Ma che nessuno gli era chiesto che lei non paga il pizzo a... ma nessuno lo metteva in dubbio che lei lo pagasse il pizzo, scusi, ma nessuno ne parla, cioè perché lei specifica Mondello? Però in realtà sono uscito fuori argomento, forse lei è stato bravo a farmi uscire fuori dall'argomento. Non è che sono bravo, lei ha iniziato da Sgarbi, poi ha detto che il problema è la Chiesa Cattolica e poi la Gelmini con... diciamo che noi abbiamo in Parlamento Sorbindi, adesso Casini e Buttiglione stanno tirando su il partito, sì, per continuare a gestire tutte cose insieme a Ratzinger. Bene. E nessuno se ne accorge. Tutte le cose insieme a Ratzinger, no. E vabbè, o sì, ma no, per carità, ma lo sappiamo tutti. Ma ci vuole una punturina. Sono talmente potenti questi, sì, qua, con sto Gesù e sto Dio, sì, e sto fantasma che 10.000 anni fa in 7 giorni ha creato la luce e poi l'uomo. Sì, i dinosauri, fantasma, poi, eh? Sono stati, non si è capito. Certo. E noi a scuola abbiamo il ministro della pubblica istruzione, sì, che indica ai ragazzi che la geologia, i dinosauri, i milioni e miliardi di stelle, non c'è stato niente. Parenzo? C'è stato Dio che ha fatto tutto, ha risolto il problema. Parenzo? Si calmi perché la situazione è grave. La situazione va peggiorando, non ci vuole più una punturina in questo caso. Più lei parla, più sono giorni di degenza. Io ho detto baggianate. No, ma non lo so se ha detto baggianate. Lei ha enunciato, scusi, in pochi istanti è passato da Sgarbi, Vaticano, Gelmini, la cricca è la stessa, sì, sì, certo, appunto, cricca, Ratzinger, poi che altro? Ma anche solo scientologi, cioè... Ma faccia lei, la cosa è così, così evidente, molto così evidente, palese, sì, che qualsiasi mente che abbia un quoziente intellettivo poco... E infatti noi siamo tutti cretini, se ne rende conto. No, no, lei non è cretino. Vabbè. Quindi sa che quello che ho detto... Sì, e infatti chiamo l'ambulanza. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go? Favia, ospite a 8:30, e meno male che non si andava in televisione, meno male che non si facevano apparizioni, eccetera, eccetera. Ci marcia un po' il signor Favia, signor Favia. Ma giustamente ci marcia, giustamente, la politica è anche questo, non le buffonate di quelli che non parlano, non le buffonate di quelli che dopo due mandati anche locali non si devono ricandidare, insomma. Ma chi l'hanno attaccato è giusto che ci vadano. 8:30, fa via. Difficile, sono stato lontano dai social media perché non avevo comunque, dopo 5 anni, ripeto, di una vita annullata per creare un sogno, trovarsi improvvisamente come, sa, quello che fa... chi crede ovviamente... Beh, insomma, come il grande traditore, come no, sì, la fonte di tutti non i mali. È stato, non è stato semplice. Poi ho dovuto fare i conti con questa cosa e mi sono detto, a questo punto la questione c'è, l'affrontiamo. Non tutti i mali vengono per nuocere. Vabbè. Io sono quello che pagherà di più. Siamo già annoiato. Cosa. Bruno da Pescara, però, buonasera. Un passo indietro per farne due in avanti. Bruno? Non c'è più, richiamatelo. Mauro da Milano, c'è o non c'è? Buonasera. Eccoci, vada. Buonasera dottor Cruciani, buonasera dottor Parenzo. Ciao, io non mi fido molto della signora Rizzi, secondo me non la racconta giusta, è amica di Sgarbi, non mi fido mica tanto. Anche perché se posso dire, io non sono un psicologo, però quando uno sbraita così tanto e con quella velocità, forse nasconde qualche frustrazione da qualche parte, comunque saranno fatti suoi. Io volevo intervenire per quanto riguarda Mastella, e per riprendere le sue parole, penso che sia un'icona di una politica che ormai ha fatto il suo tempo. Icona basta. Al massimo, sì. Ah, non si dice icona, grazie. No, icona, io fino a prova contraria, per carità, non voglio fare il maestrino. Me lo segno. E no, basta, cioè direi che hanno fatto il loro tempo, ci hanno fatto divertire, ma se lei mi dice, ci hanno fatto ridere. Se lei mi dice Mastella ha fatto il suo tempo, cioè non mi dice niente di nuovo. Insomma, la pensano così, no, penso ma... il 90% degli italiani, eh. Ma infatti, purtroppo non è detto che sia l'idea sbagliata, perché ce l'hanno il 90% degli no, italiani. No, non ho detto questo, però non è un'idea originale. Se mi dice basta Mastella, basta Mastella. Siete voi che avete proposto Mastella, non sono ma io sì, che non... Ma sì, quindi, allora... dire, di quello dobbiamo parlare. Nel senso non che... è detto, lei può parlare di quello che vuole, mica ha detto no, che deve parlare vabbè, di un nostro ospite. Certo, però insomma... mi dà l'idea di quella politica impiastricciona... Impiastricciona. Che si sono mascherati dietro un governo tecnico perché non hanno avuto i coglioni di fare loro ciò che andava fatto, se questo è quello che andava fatto. Questo e è vero, Mastella ma in questo caso, Mastella non c'entra un cavolo in questo caso perché era Strasburgo. In Europa. Grazie, Bruno da Pescara, buonasera. Buonasera Cruciani e Parenzo. Vada. Solo per ricordare che le notizie su Sgarbi, sì, furono date una quindicina di anni fa, sì, da un insospettabile Rocco Siffredi allora. Beh, insospettabile insomma, perché... allora era poco noto, al di fuori dell'ambiente. Che interrogato sulla concorrenza che Sgarbi faceva con le pornodive, lui disse, beh, non mi preoccupo perché le mie colleghe mi riferiscono di una sua quasi incapacità. Cioè, ammesso, scusi, no, ricostruisca questa cosa interessante. Cioè, Rocco Siffredi avrebbe detto... intervistato su Cuore, sì, quando era l'inserto satirico dell'Unità, Affermò che non si preoccupava della concorrenza di Sgarbi perché in effetti... era una concorrenza poco consistente, diciamo così. Vabbè, però era Cuore, poteva essere pure una cosa satirica, ironica. Era un'intervista con delle domande anche diverse. Anche serie, dice lei, no? Anche serie, diciamo. Va bene, vabbè, verificheremo. Cuore. Niente di male ad avere qualche defiance, comunque. No, per carità, maestro, non vogliamo fare l'accusa. Capita anche a lei, a tutti. Capiterà anche a lei, sarà capitato anche a lei, Bruno. Giornalismo storico, ecco. Diciamo. Come, scusi? Solo una notizia di giornalismo storico. Sì, sì, della storia, la storia delle prodezze sessuali di Sgarbi. Bene, Vito da Roma, buonasera. No, a me dà fastidio solo una cosa, voi fate benissimo il vostro mestiere, anzi complimenti, solo vedere che il mio fotografo preferito e probabilmente uno dei più importanti critici d'arte italiana, sì, si riducano a questo, cioè a, e diciamo che non fanno più né il fotografo né il critico d'arte, cioè, su questo non ci sono dubbi, però francamente da poca speranza, cioè nel mio caso ho studiato parecchio, più lauree eccetera eccetera, e vedere che due persone così importanti almeno nel panorama culturale italiano debbano arrivare a questo, arrivino a questo per fare notizia o tanto per dare così sfogo ai loro peggiori istinti, non è bellissimo, insomma, lascia un po' di dispiacere, ecco, tutto qua. Va bene, grazie. Favia avrebbe detto, sono consigliere regionale, le mie dimissioni ogni sei mesi in assemblee pubbliche, quindi decideranno i cittadini. Io non capisco perché, se uno è consigliere regionale, ma quale regola assurda in un movimento prevede una cosa di questo tipo? Quindi decideranno i cittadini ogni sei mesi. Ma perché ti devi dimettere ogni sei mesi? Sei stato eletto per un mandato, fai il tuo mandato. Perché uno deve prevedere che ogni sei mesi ci siano le dimissioni? Ma è una cosa ridicola, ma folle. È un problema loro, è una sorta, appunto, è una sorta di esame del sangue, quasi. Vabbè, ma appunto una cosa interna che per me è una stronzata. Possiamo Mauro da Vicenza, buonasera dottor Cruciani. Vada. Mi riferisco alla telefonata di un certo stronzo, sì, che parlava prima riguardo a che? A Sgarbi. Però a me ha fatto un po' sorridere perché ha detto che Sgarbi è impotente. Sì. Ma come si fa a dire? Come si permette di dire una cosa di questo? E che ne so io? Io lo chiedo a lui. Come si fa? Infatti è una cosa gravissima. Come gravissimo è dire che l'altro è cocainomane. Certo. Va bene, dobbiamo lasciarvi. A domani per un'altra puntata meravigliosa, come al solito, spero, della Zanzara. 18:30. Ciao. Siete dei disgraziati perché voi mi fate morire da ridere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.